non è il problema, non bisogna l'antenna. Qui siamo tutti in turbato, se non ci sono la sotto zero. Ciao a tutti. Guarda, se io dovessi abitare almeno quel palazzo che c'ho di fronte, dove c'è lei col bar, io sono sicuro che l'arrivo un me di mattana. Sono sicuro, non al 100%, al 1000 per 1000. Quel palazzo è altissimo, non c'è Nicolino che lo guadagno lì. Mi metto l'antenna con un palo da 4 metri, 3 metri anche. La camera la matta la vita in chibi. A me c'è una mia matta che mi ha fottuta. Ho vinto più brutto. Anche io, se fossi stato ricco, non sarei stato povero. Io me la metto l'antenna, Luca. Hai visto sulla Montebianchino con una specie di serbatoio che già lo conosce bene Claudio, con quello di lume di tutte le parti, io penso, se dal punto più alto io da tutte le parti che passo lo vedo, a Platamona, a Raghiero, il coso che vedo più in alto di tutti, parliamo di strutture non naturali e costruite dall'uomo, è una cosa allucinante, se ti metto l'antenna ai chivi, da tutte le parti arrivo. Dove, Roberto? Sul Monte Bianchino c'è quel serbatoio di accumulo d'acqua nella parte alta, che lo vedi, un serbatoio enorme che hanno costruito, però non si può colorare se non è varato in terra, già lo sa bene Claudio che è del mestiere. Quindi se piace una terra di lì domini da tutte le parti, perché io dove vado lo vedo a Platamona, ad Alghero, nei paesi vicini, si vede da tutte le parti, è un punto di riferimento eccezionale. Ma chi è da tutte le parti? Con gli occhiali. Occhiali? Io sento e mi sento, quello è sempre l'importante, esserci. Cosa c'è di che ti sento spento? Che tu mi lascia tu, ma c'è più qui, ho andato tre sì. Spento, sono come questa tosse mi sta torturando. Di meno, sempre di meno, però c'è sempre. Lo sto guardando di Max. Sono qua, mi sto ascoltando, e via, e vabbè, e poi sono fatto, che si dice? Saluto intanto lo zio Claudio, bonsoir. Guarda, io ci sono passato a proposito di tosse la scorsa settimana, aerosol, antibiotici per una settimana, fluidificanti, perché non c'era verso, la tosse mi stava distruggendo le torace, poi molto asciutta, per cui non riuscivo a espettorare niente, sembrava che non uscisse niente, solo che avevo le fasce proprio muscolari che erano tutte addolori, perché lo sforzo della contrazione nel tossire mi ha fatto questo effetto. Comunque aerosol, caro bello. Mi sono infatti adesso domani vado e me lo compro. Anch'io non nulla, catarro zero. Infatti quando vado a tossire, vabbè, a parte il petto lo sta distruggendo, poi anche la come si chiama? La trachea. Mamma mia, che dolore qua. Più dolore atroce, guarda. Vedi, ma meno male. Oggi non era molto, comunque si è fastidioso lo stesso. Quando sono a letto, sdraiato, ogni tanto così, ma quando dormo non sono tranquillissimo, ma quando mi alzo, mamma mia. È fastidioso, allora, diciamo che questa volta l'ho pizzicato in pieno, a parte vabbè la febbre alta, che non mi è passata. Però la tosse questa volta mi ha veramente preso. Cioè vabbè là. Adesso domani di mano compro questo aerosol, vediamo un po' cosa fa. Sì. Riprendi Gianni, poi fai girare Roberto, Claudio, Luca e Salvatore, 27.015. A te doppio room. Vai, riprendo io e faccio rilascio tutto quanto a Luca, che sono qua su internet e sto controllando una cosa solo, mi avete beccato proprio al momento opportuno. Scherzo, Salvatore. Avanti Luca, riprendi tu. Poi riprendi? Io. Stavo pensando. Adesso domani vediamo, Roberto, punto questo benedetto sportello. Temo di chiudere, quello che vuole non chiude. L'allucinante. Passa quando vuoi, non c'è problema. Vediamo, torre di controllo. Avanti, se ci sei, batti un colpo. Ci siamo sulle passi, qua. Prima eravamo sul 12, poi sul 10, adesso sul 5. Ci siamo sempre, buonasera Salvatore. Ci siamo sempre. Settimana dopo ti porto quel pezzo da museo, l'ho già preparato, pezzo poco pesce. Così lo metti in vetrina. Dopo il rumore lascia stare internet. Non comprare niente. Ui ui ui, va bene. No, io sono a maniche corte, qua ci sono 24,8 gradi. Si sta da Dio. Benissimo, tutto spento, solo me. E 4,40 acceso. E si sta da Dio. Benissimo, si sta, benissimo. Come c'è un po' di niente, Giovanni? Ma sono degli apparati, degli apparati. Dei rituali di queste cose qua. Mi sta appassionando. Mi piace proprio non muore il ricevitore e la stazione base. Per scontare chi? Non ce ne superi. Oramai sono tutti in digitale, tutti al computer, di tutto di più. No, io non sto sentendo più nessuno, non ci sto entrando, ma non sto sentendo neanche nessuno. Ascoltare un po' di attività, sto facendo la KF e basta. Il resto è passata la vita che la gana. Sto disattando tutti, così. Infatti io sulla frequenza monitor l'ascoltavo quasi sempre, ma accesi questi giù non vedo nessuno. Ma in questa ho sentito una volta stanotte che ha chiamato a Marco e poi basta. Manco quello che sto facendo io. Manco quello. Va bene. Avanti, riprendi tu, sotto. Ascolta, Clark, che differenza c'è negli apparati, come vedo, che nei cataloghi ogni tanto mettono la sigla e poi a fianco cancelletto 03 EUR oppure 07 EUR. Si intende che cosa con queste sigle? Che differenza c'è? Ho visto che lo fanno sulla serie Icom, ad esempio il 7008, il 7002, il 718, insomma su diversi apparati, però vedo che c'è identico ma anche a parità di prezzo, cancelletto 3, cancelletto 7. Mi sono sempre chiesto che cosa voglia dire. Forse bisogna che chiedi a Massimiliano Rosso, io ce l'ho lì come quello l'ultimo, e c'è i come scritto, poi G barra 7004. No, non vedo altra lettura. Gli altri che ho della Icom, lo stesso IC barra 271, IC barra lo stesso 756, non c'è scritto niente. Non lo so, bisogna che chiedi a Massimiliano, che lui sicuramente queste cose è più informato. Vabbè, era una curiosità. Poi oggi da un po' di tempo che non lo facevo, ho fatto attività in 80, bello, c'era una bella pulizia di segnale e si usciva veramente bene. Gianni, perché stai pensando di comprarti una radio? No, più che altro stavo guardando, no. Se dico qualcosa sì, ma non mi sono ordinato. Sì, vabbè. Bravo. Rilanciamo a Roberto, che lo stiamo lasciando in stand by. E poi Luca non ho capito se c'è ancora. Robè? Già ci sono, dai. Non mi rilanciate, non riprendo, usa. E allora ti rilanciamo adesso. E poi fai girare a Roberto. Comunque vi sto ascoltando e sto guardando D-Max. Se lo facciamo vedere qualcosina. Ma stanotte c'è Zedi, come si chiama? E ieri c'è stanotte. Ieri ci sono. Ehi, così hanno detto. Hai visto che c'è l'autorizzazione per i 70 MHz anche per quest'anno? Hai visto che c'è l'autorizzazione a usare i 70 MHz, a fare sperimentazione sui 70 MHz anche per quest'anno? Beh, 70 MHz ce l'hanno avuti l'anno scorso, quindi non capisco perché anche per quest'anno. Sì, ma per sicuro che non mi sentirai 70 MHz, perché no, non c'è nessuna intenzione di comprare una nuova radio con i 70 MHz. Già non li comprare abbastanza. Mi sono pentito aver comprato anche il 7004. Figurati tu se mi compro un'altra radio, ma manco per la problema qua. C'è tutto grande qua dentro, tutto arrotolato e pronto da montare, e quando sarà la finestra, come sarà la finestra sabato, come che ti cambi del canto che fanno, ma come finito appunto è brata, quindi non voglio essere fuori e trovarmi una fottenuta, facciamo quello che mi piace, anzi fate quello che mi piace, visto ci sia anche tu, a me non mi interessa. Io continuo a rimanere come sono stato sempre dal 93 oggi, farò a te. Chi vuole fare faccia, a me non so come lo picco io che metto appresso a chi si mette a sperimentare a fare. A me gli esperimenti non mi piacciono, non mi interessano. Non me la fotti nulla a me. Vabbè, che c'entra visto che il principio del radioamatore e anche quello della sperimentazione, sto dicendo se avevi visto che avevano anche per quest'anno autorizzato a fare sperimentazione sui 70 MHz. Io l'ho scoperto da poco quando stavo leggendo i comunicati del CISAR e basta. È ovvio che non è una medicina che uno deve prendere obbligatoriamente, ed è chiaro che uno deve avere la radio per trasmettere sui 70 MHz, ma sapere che ci sono queste cose è un discorso, poi usufruirne e andarci è un altro, uno ci va quando ne ha voglia, se ne ha voglia, se lo vuol fare, eccetera, eccetera. Questa è, leggevo che è legato questo dei 70 MHz agli studi della propagazione ionosferica. Ionosferica transequatoriale, esattamente. Figurati, non saprei neanche né modello né marca di radio che lavora sui 70 MHz. Io di radio ne ho meno di te, per cui. Sì, ma c'è la radio lavora 70 MHz, non è quello il problema. Ma con 720 io lavoro 70 MHz. Qual è il problema? Non ce n'è problema. No, non mi interessa proprio il fatto di capire. Anche tu sei Cesar, quindi ho ragione io. Basta uno e tutti mettono appresso. Un altro gruppo che non mi interessa. Ma non ho sempre proposto, ma non mi interessa. Io sono stato sempre sociale da quando sono diventato l'arrivatore. Poi mi sono stufato, sono uscito, poi sono entrato, sono uscito. Adesso sono uscito, non c'entro più. Non mi interessa più niente, né le associazioni, né le sperimentazioni, né niente. Io sono arrivatore, continuo a fare arrivatore come ho sempre fatto, non ho nessuna roba a fare, vieni qui, va là, fai questo, ti impongono, ti dicono, non me ne ha fatto nulla sotto. Capito? Non era così prima, pensavo che qualcosa cambiasse con l'ingresso degli altri, invece non è così. No, comunque, quello che ho detto là, te lo dico qua. È stato fatto un cambio, non c'è nessuno, né dalla parte né dall'altra, appunto basta. Quando invece qualcuno si sentiva, ci politici possono sempre più, perché sono tutti di monitor che aspettano che qua a questo cazzo di eccoli che per fare che cosa arrivo. Non me la fatti un casato. Fate facciano quello che vogliono, io sempre quello che lo rimango, capito? Come hai detto tu, esci dal guscio, io dal guscio non voglio uscire, voglio rimanere dentro il guscio. E continuiamo a fare il pulcino. Noi vi saluto, vi vado a mangiare, se ci siete dopo, altrimenti alle prossime. Ciao Salvatore, Luca, Gianni Doppio Roma e Roberto, e ti rimetto il microfono e ci sentiamo. Ciao a tutti, vado. Ciao, ciao. Ci sentiamo se passi domani. Con tutto, buona carica. Avanti Salvatore. sono capito. Sicuramente ho inteso che sei dispiaciuto per qualcosa, ma non ho ben compreso comunque. Vabbè, io stavo parlando dei 70 MHz e finisce lì il discorso. Poi il fatto della segnarsi a un'associazione piuttosto che a un'altra, quello è il libero arbitrio che ha ognuno, e va dove gli pare, gli piace ognuno, no? Claro, ovviamente. La cosa che è interessante di questa cosa qua è che c'hai assicurazione sulle antenne e hai una copertura che l'ARI non dà, quindi se un'associazione vale l'altra, tanto vale scegliere quella che ti offre qualcosa di più. Punto e V. Va bene, salutoni comunque, buon proseguimento di serata. Gianni? No, appunto. Non lo so, nemmeno la salata, perché il CISO è l'unica cosa che non è che si paga niente, capito? Non è sempre assicurato tutto, le antenne e tutto, quindi non ci sono problemi. L'assicurazione te la fa completa come te la fa il CISA, e che il CISA non paghi niente, quindi ognuno avrà un'ora perché risparmia. Ma non mi dire che l'ARI è la prima associazione a livello nazionale, l'ARI, quindi non parliamo di CISA, che non ha niente a che vedere con l'ARI. Solo la parola dice tutto, associazione ad animatori italiani, quindi abbiamo detto tutto. Io quando sono stato socio ARI l'anno scorso avevo tutto assicurato, anche non prende tutto quanto, però non mi interessa frequentare le associazioni, quindi mi sono pronto eliminato tutto qua. Poi chiaro, ognuno, come dici tu, è libero di andare dove le pare e piace, però nel CISO c'è una differenza che paghi 15 euro all'anno, ne paghi 72 all'anno, capito? Quanto pagate non lo so, ma so che comunque si paga molto molto poco. Ma bene, ora provo a risponderti. Avanti Gianni, riprendi, correti per me, ciao a tutti. Gianni, è andato via. Oh, Roberto. No, non ci sono, io tanto stavo a scompaiono qua, preso dei vantaggi, insomma. No, vedi, guarda, un po' di pazienza. E poi ritorna anche Luca, è lì che tanto sta smanettando sulla tastiera. Luca, finito. No, oh, sono qua, sto ascoltando. Sono qua. Oia. Oia. Vabbè, oh, Luca, ma tu cosa avevi intenzione di cambiarti la radio? No. Io avevo 140, però ho venduto. Adesso vediamo, adesso no. In questo momento no, però sto puntando su un 440, adesso vediamo, da più in là però. Per il momento 9. E tu sai fatto di top di gamma di apparati? Mi hai detto con che cos'è che stai andando? Ho parlato sopra di te, Salvatore, aspetta di Luca. E vai, sto dicendo, vai, ti ho sentito, però non hai mai di coppe. Ma stavi dicendo, vai. Poi ho detto da Salvatore che apparato c'hai dopo la stazione. No, non ho capito, Rubè, scusami, cosa hai detto? L'apparato top della tua stazione, qual è? Poi l'HF, lo IAESU. Sì, che cosa? Il marchio quinto, io ho solo questo come HF. Ok. La potenza dell'apparato o ti aiuti, c'è anche qualcosa, la possibilità di aumentare? No, con la potenza dell'apparato, no, io sono abbastanza limitato nella dotazione, cioè, diciamo il set base per poter fare attività e basta. Ho quindi questo due portatilini CB per la 27 e uno piccolissimo transceiver della Kenwood per le ULV e ho lo IAESU, le FT1000 MP per l'HF, basta, finito, non c'ho lineari, altri amplificatori e quant'altro. Il tutto in un mobiletto in un angolo della stanza, per cui non avrei possibilità di metterci nient'altro, diciamo. Scusate un attimo, va, io faccio il correttivo, la gente è a cena, va. Ci sono, vi saluto tutti cordialmente, vi auguro un buon continuo questo, va. Buonanotte a tutti. Secondo io, ciao Gianni, buona giornata, buona serata, buon proseguo. Vai Luca poi sabatone. Già alla prossima. E stavo qua più piatto da mangiarmi qualcosa, c'ho fame. Ma sabato. Eia, ok, ciao Gianni, buon proseguimento. Ma Luca tu stai rimanendo? Ma sono qua. Dove è stato l'esaminamento, Salvatò, che cos'è invece? La radio, il president. Ah, è il solito tuo, eh? Cosa non hai modo di farlo sentire, lo hai reso? Beh, ce l'ho spento, dovrei trasmettere con quello. Non so a livello se è roba veloce, la vedrei a fare una prova di modulazione per vedere come usciva. Dimmi qua. È in spagnolo quel libro? Sì, a Puglia, cavolo, interessante. Bello completo, poi viene ancora. L'ho letto. C'è un sacco di normativa pure, diciamo, abbastanza aggiornata, ho visto pure. Per l'ultimo che hanno fatto, mi hanno mandato proprio da. Dall'Ari, sarà neanche un mese fa. Mi ero dimenticato di dirlo, comunque. Dalle una bella controllatina perché è molto interessante. Ma vabbè, continuate avanti a risolvere. No, dicevo, poi in AM non è neanche un granché in termini di modulazione. Io uso poi con la KF una cuffia microfonata e oramai mi sono abituato a fare attività con quella. E il PPT a pedale. In AM non è una cannonata, ecco, bisogna onestamente, certo, si sente bene, per carità, però la modulazione non è la quintessenza, rende molto di più in banda laterale. Sicuramente è nato per altri scopi. E in FM come mai invece? È molta la differenza se no, rispetto a un apparato normale, a un barattino in uscita in FM. L'hai avuto modo di provarla? Provata credo che in FM sia meglio in termini di modulazione. Credo che sia meglio. Ma se mi dai qualche secondo, aspetta, lo accendo e mi posiziono su questa frequenza. Ciao, passo a livello di curiosità, molte volte sentire cose nuove è sempre interessante, dai. Basta, dammi due minuti. Vediamo un po' se oltre a Luca c'è qualche donato, canale 5, 27.015, chi vuole entrare con la buonasera avanti. Ma va di sciul, ti ascolto, so. Tutti orecchie di porco. Oh, non ho più sentito Mario Massa, ma che fine ha fatto? Non ho più visto l'altro. No, non ho più sentito né visto. Ha passato qualche mese fa in officina, sparito, mi ha detto mica dice a Salvatore quando arrivava un apparecchio mio a restituirmelo eccetera eccetera. E infatti ci ha sentito e ho detto a Salvatore, ha detto sì, quando ma non la spedire, mi ha detto ma devo venire qua in Italia, per cui te lo riporto. Questo stava un paio di mesi fa, scomparso, non l'ho più visto, ma già sta bene, sì. Italia? Come? Come l'Italia, cosa vuol dire in Italia? Salvatore è fuori in Austria, vive lì adesso. Non è più a tempio. Dall'anno scorso, da maggio è che si è trasferito lì. Ha capito. Vabbè, Mario già ne ha radio a Puglia. No, c'era un portatile, un ricevitore portatile, sembra che era un Incom o qualcosa del genere, che gliel'aveva dato. Teoricamente puoi sollevare anche un po' il livello, leggermente basso. Allora, sei ultimo, va bene, come arriva, lo farò parlare, fa un passaggio più lungo. Sì, va bene, certo, per essere pignoli appena un po' di acuti avete necessità, ma va più che bene, niente da dire, buona modulazione. Avanti Luca, chiedi anche un controllo a Luca, avanti Luca per il rapporto. A me va bene, io ascolto bene. No, stavo facendo benissimo, niente da dire, però tu mi hai chiesto le finette, diciamo, il rapporto proprio definitivo, va benissimo, radio bellissima, però ho detto, se voglio essere pignolo, un pochettino proprio di acuti avresti necessità, ma va bene così, non tocca niente. Vediamo se è diventato Salvatore, così vediamo anche come ti ascolta lui. Salvatore, ci sei? Esatto, eccomi qua, ben sentito Gianluca. Però io adesso. E io adesso sto uscendo con quello, chiaramente dovrei regolare il mic gain, ma ditemi un pochettino voi se che come l'audio. Stavano parlando sotto qualcuno, un attimino che sta parlando Salvatore, avanti Salvatore. No, niente, dicevo, ditemi voi come da regolare l'audio. La parte mia è bellissima, bella radio, chiara, lineare, non hai grossi difetti, pensavo peggio. Livello microfonico va bene, lo stesso, non toccarlo sia come livello che come modulazione, va bene. Anzi, meglio di quanto mi aspettassi. Dunque, questa è praticamente ore 9, come ore 12, cioè come regolazione. Mentre quando vado in HF, ecco qua, in HF trasmetto con questa regolazione qua. No, questa non va bene, troppo compressa le tonalità medio-basse e medie, era meglio più lineare l'altra, andava molto meglio là. Esatto, questa qui dovrebbe essere ore 12, questo è il taglio in AM e in FM, dovrebbe andare bene anche questa. Tutto perfettamente, ok. Veniamo a distanze più rilevanti. Gianluca, come l'ascolti tu a Salvatore, se lo ascolti naturalmente? Ma guarda, ti sento, c'è un po' di fruscio di fondo, ma credo che sia percepito un po' anche dagli altri. Ma la radio è chiarissima, non ti sento bene, non si perde niente del passaggio, non risulta disturbata. C'è un po' di rumore di fondo, ma non credo che sia un problema del senso proprio del tuo microfono. Credo che vada bene. Ma per me va bene, io fischio quando hai parlato prima, non si è sentito, si è sentito adesso quando stavi dicendo vedi, che probabilmente stai riuscendo anche tu a capire qual è il momento dove c'è questa sorta di innesco, ma mi sembra che vada bene, non so per gli altri, Luca? Ciao, io con questa radio qua faccio fatica ad ascoltarti, Prima sentivo bene, poi sembra che almeno un watt, ti ascolto tutto strappato perché siamo troppo vicini. Io come si chiama? Gianluca lo ascolto, prima lo ascoltavo meglio, adesso la radio sembra più, come si dice, più debole, non è come prima. Adesso riprova Gianluca, c'è sempre il fruscio. C'è sempre il fruscio, poco ma si sente. Quello è un rientro di RF, mi sembra sbaglio. Si sente il discorso. Ma basta un pochettino. Tieni troppo alto, abbassa un pochettino il livello, stai già distorcendo. Ma tu devi fare le due prove. Prima ti regoli la tua regolazione, per dire, lo metti a metà quello del microfono e lavori su quello, sul mic gain dell'apparato. E poi viceversa, vedi le due cose, perché magari con l'amplificatore del talent ti deteriora il segnale. È già successo con la Baby più 5, che dovevi trovare una via di mezzo, per dire, sollevare a 5 l'altro e a 4 quello dell'apparato, trovare una via di mezzo. Perché magari ti migliori anche con le tonalità magari leggermente carenti. Però fai una prova adesso, rimettiti uno, per dire, lo metti al massimo, quello dell'apparato, l'altro lo metti a metà e facciamo delle prove, vediamo un po'. Allora, ti fai una cosa, mettili tutti e due a metà, sia il mic gain dell'apparato o il mic gain, il guadagno del microfono, del proprio del tanner, mettili tutti e due a metà e poi inizia a sollevare uno e ti dico se cambiano anche le tonalità, aumentando prima il microfono e poi aumentando l'apparato. Ok, adesso aumenta il tanner per curiosità. Adesso fai la stessa prova, la rimetti a metà e sollevami l'apparato. Prova ancora un po'. Beh, qua forse ti sei spostato dalla direzione del microfono perché non hai cambiato niente. Prova a parlare, fa un passaggio più lungo. Infatti non succedeva niente, non stavi toccando niente. Allora, metri, tra 2 metri, puoi fare la prova a sollevare l'apparato, il livello microfonico dell'apparato. Solleva il microfono adesso. Sali ancora, sali un bel. Sì. Adesso fai il contrario, metti a metà il come si chiama? Il micchigin del microfono, guarda il microfono, amplificate il microfono e poi solleva l'altro progressivamente, mi dici tutti i valori. Però il passaggio un po' più lungo, non è ancora più il volume del microfono, ancora un peluzzino. Ma non ti spostare però dal microfono, sembra che ti stai spostando perché non sta cambiando quasi niente. Prova a parlare. E va bene, se non hai la voce va bene, questo è il tuo livello giusto. Mi sembra che vada bene. Mi sembra che vada bene. Non ho notato proprio differenze esagerate, però tra quando stavi armeggiando con il mid-gain o con l'altro livello, però si sente. Ricordami da dove che stai modulando. È K, secondo me va bene. Comunque, poi vieni avanti, poi io attacco questo perché sennò non riesci a sentirmi perché siamo troppo vicini. Ma già ti capisco, sembri. Ripeto, il mio baracchino, a secondo motivo ti dirai, normale che poi va a farsi benedire. Prima ti ascoltavo bene. Perfetto. Quel baracchino. Se non è la rida, allora, non sa. Ti ascoltavo bene, sento tutto lo strappato e non riesco a decifrare quello che dici. Chissà, io di te sono vicino. Oh, Luca, ascoltalo con il RFV in chiuso, voglio capire una cosa, se è un problema di segnale o perché c'è il filtro stretto lui. No, lo so, RFV in chiuso lo sento bene. È il mio malacchino, allora, tra metà forte che me lo manda a farsi benedire, capitolo bene. Con le RFG in chiuso lo ascolto bene. Sì, ciao, ho sentito, sta vincendo. Ti do. Ora non è una preparare mai, ma non ti preoccupi, anche io sento tutto chiuso, non c'è la tonalità, non c'è niente. E quello non è preparare mai la laterale, non per usare mai. Sì, no, naturalmente stiamo facendo dei confronti, delle prove e basta. Ok, vabbè, sabato rientra come eri prima, con quanto sta riuscendo per curiosità? Oh, eccomi qua. Oh. E segniamo l'altro. Dunque, ero il minimo per fare citare l'accordatore da palo, come dico, dava 50. No, dammi, il segnale è fortissimo qua. Luca, lui arriva molto più forte di me, come si chiama, Salvatore? Salvatore è uno dei più forti, il più forte di tutti qua. Nessuno lo passa. Ma scusa, ma Salvatore tu non sei da Monte Loro? Collo, mamma mia. Sì, non è fortunato. Però passano un altro, non c'è come passare un altro qua, da sulla scala. Lo sa Roberto che Salvatore è di fronte a me. È Cappuccini Salvatore, vabbè. È forte di tutti. Marco ci ha attaccato, lo passate. Brusugnetti. Io ero convinto Salvatore che tu fossi a Coso, a Monte Oro. Infatti ho detto, ma come fa a arrivare così forte lui da Monte Oro? No, siamo uno di fronte all'altro nella vallata. E in linea d'aria saranno un 400 metri, forse 500, ma neanche, non credo, forse un 400 metri in linea d'aria saranno le antenne, capito? Se mi avessimo trovato una via San Francesco, cosa succede? Vabbè. E poi un pensiero, gira, ce lo stai facendo. Ce lo sto facendo. Non lo so, sono di Messina, sono tanti quelli, non si può andare a Vittori, quella è già in vendita, rimane in vendita, però nessuno mi viene a prendere un'antenna, poi la radio e lì tocca andare a parlarci, no? Quindi poi ti accorgi un calore che stava differente, se uno attaccato, non andava, prima c'è di famiglia, c'era a 200 metri in linea aria, ma l'ho morto. È 9,60, quindi non c'è niente per nessuno. Arriva qua un tornello, si parlano tutti insieme, ma non è per il radio, passa. Beh, Fabrizio arriva tu pensi che io sia il più forte di tutti? Io sono molto più lontano rispetto a Fabrizio di te, quindi... Sì, ma dico, Fabrizio è secondo. Secondo segnale. A parte, vabbè, Salvatore non c'è nessuno che lo... Non penso, guarda, sto pensando a Adriano, ma mi sa neanche Adriano lo passa. Non lo so, non vorrei, cioè, se non vuoi fare le prove. Comunque, Fabrizio arriva fortissimo qua, fortissimo. E vabbè, purtroppo sono anche le posizioni. Capito, tu magari arrivi 9,60, 9,40 e Fabrizio arriva a 9,5. Luca, chi è arrivato più forte di Salvatore? E ce l'hai vicino a 50 metri, Alessandro. Non ti crede. Guarda che se, vabbè, sarà più vicino, ma Salvatore se la giocano. Ecco. Con 5 watt, un microfono a 12 euro e con 20 canali con lo squerch, non c'ho neanche il Mikigi, quello non me l'hanno dato in dotazione, comunque date il mio controllo di radio. Va bene, avanti, Salvatore, ripeti. Ti stai portando un po' dell'ordine, Gigi. Sì, è un baracchino, non è una radio professionale, capito? È un baracchino, non è una radio professionale. No, io confermo che non si ho le altre. Ma non è importante, poco a poco si sente un rumore della telecamera sotto. Negativo, pulito, pulito. Caso usato alla luce, quindi prova cosa dice, prova un po'. Sarà la ventola. Sì, la ventola. No, non sento niente, è pulito, pulito. Sabato ci sei. Ma che spontatevi da qua che c'è gente che sta parlando da Siri e io disturbo. Un attimo al 10 o dove volete. Al 10, dai. Ma c'è anche Gianluca, l'abbiamo lasciato nel parcheggio. Avanti, arrivo al 10, dai. Ci siamo? Sì, già, canale 10, monitor. Eccomi qua. Scusate. Stavo guardando una cosa. Salvato, ascolta, lui ci manda a portante mutta. Vediamo un po' se senti il rumore, Salvato. Io non sento niente, vai, lui ci manda. C'è la ventola, la sento io la ventola qua. C'è la ventola accesa, il coso acceso, sta girando la ventola. Si sente una cosina in sottofondo, ma niente di così terribile. No, non sento niente, poi ti ho pulito il... Boh, agli usorsi allora. Guarda adesso. No, però c'è il rumore della ventola. Vedi, c'è questa ventola che sta girando. Non sento niente, ma boh. Avanti, la riprendi tu, la fai girare. Io mi lascio 10 minuti, neanche 5 minuti, vediamo un po', ce l'ho fatto. Ma perché tu pensi, Gigi, che stiamo scendendo con qualche radio professionale? Io sto scendendo col pane più te, e il Zodiac 50, 24, 23 canali. No, non è che ci vuole molto a farsi sentire, bastava sempre c'è radio. No, stavano già lamentando sul 5. Voi forse non li sentite, ma io sì. C'era Ozieri con un altro e... erano già in difficoltà perché sentiva più a me che all'altro sicuramente. Vabbè, no, sto scendo bene, io non sento niente, vabbè, non sento nessuna cosa, vabbè. Quelli di Ozieri li sentivo pure io e quando siamo detto passate che avete fatto il podio in bianco, li sentivo chiaro chiaro parlando tra di loro. Li sentivo benissimo anche quelli di Ozieri, dai, senza problemi. No, è l'antenna. Forse più è libero qua, è l'antenna che conta molto, capito, Robè, anche l'antenna vuol dire molto, io c'ho una Mantova Turbo che me l'aveva fatta prendere Valte Salvucci, me l'ha comprata lui a dire la verità, me l'aveva ordinata lui, me l'aveva consigliata lui, e poi l'ha montata Claudio, è venuto Luca, mi aveva dato una mano Luca e pure Franco California, mi pare, avevamo veramente, era pure un Franco, e l'avevamo messa montata, che ce l'avevo sempre nuova, Claudio era sempre dentro, la monta, la piazza, la farla, era sempre dentro imbustata in garage e non la volevo mai mettere sopra il tetto. Poi è stato un po' Claudio a convincere a metterla sul tetto e infatti l'avevamo messa assieme. Però non so dove abiti, l'ho vista l'antenna, si vede da lontano, è l'unica che c'è, prima c'era quella tra il Salvatore e Maestrale, però adesso c'è solo la tua. Però, ripeto, sono da tanto non ti ascolto qua, è stata fissa, però che mi ricordi io un segnale così forte non ti avevo mai sentito. Ok. Comunque il rumorino io lo sento ancora, molto basso, quasi impercettibile, però si sente una ventolina sotto. Non so cos'orlo, me lo dice anche la redattore che c'è un leggerissimo rumorino di sottofondo. Chi non lo sente non lo so. La possibilità di ascoltarlo, ma guardatevi le cuffie perché io lo sento e non è questione di dovuto all'apparato mio, perché me lo sta segnando anche l'analizzatore. Riprovo a parlare, vediamo se c'è ancora. No, c'è la ventola accesa, sta facendo un rumore, è rumorosa, vedi, vorrebbe cambiata, è di questo alimentatore grosso che ho qua. E la sento io la ventola, sta facendo, ed è quello il rumore, capito, si sta portando dietro. E appunto dico, non è che me la sta inventando, ma di qualcuno se lo sente con l'altoparlante dell'apparato non ci fa caso, viene coperto dal resto dei rumori. Io lo sto ascoltando l'altoparlante esterno e si sente pochissimo, niente di importante, è una cosa impercettibile, però sembrava alternata, niente. Poi come è schiacciato mi sono accorto che c'è questo soffietto sotto, niente di più, non ti preoccupare, va benissimo. Ok, vediamo Gianluca che era un po' in parcheggio, avanti padre Gianluca. Luca De Fara. Comunque questo baracchino piaceva a Gianluca, però non c'è riuscito a convincermi, questo non esce da qua dentro. Questo piaceva a Gianluca, però Gianluca non è riuscito a convincermi, il non esce da qui dentro. Ma che baracchino è, per curiosità? No Gianluca, quello che piaceva a te, che ti volevi, questo non esce da qua dentro. Sì, grazie, Giorgio. Che baracchino è, Gigi? Che cos'è come baracchino? Cosa hai detto, Salvatore? Perché? Che baracchino è, o Gigi? Baracchino con 40 canali, Ma dico, che marca è? La marca di quello che stai operando tu. Ah, appunto. Dai, non sono 5 watt, le darà qualcosa di più. La marca, se non sbaglio, proprio in questo momento. Era qualcosa di più di 5 però Gigi con l'affare. Ehi, c'è 4 finali in linea, non lo so io, capito? Ce ne ha 4 in linea, nasce così questo qua. Questo fa da 1 a 40, da 1 watt a 40 arriva. Di piano, portante piano. Ho detto che non sei mai uscito con questo segnale, tu mi sono, non mi sbaglio, che cosa sta spingendo? Che da ottava, sto dicendo c'è gente molto più vicina di te che non ce l'ha questo segnale qua a Sassari. Perché è così, ti sto dicendo, non è che ci vuole un granché per avere un segnalone, perché io vedo a Claudio, dove è messo lui adesso, è l'antenna quello che conta, secondo me, è l'antenna, perché Claudio io riesco a sentirselo in Oristano, hai capito? A Oristano lo sento a Claudio, se tu senti a Fabrizio, lì a Macomè, ti spaventi. Col segnale mi arriva Fabrizio, ma com'è? Tutti spaventi. E su questa riapertura sicuramente c'hanno un varco loro, lui e Claudio riescono a sparare, si apre in mezzo alle montagne e riescono a entrarci, è normale. Chi conta l'antenna non è tanto a conto, per avere un kilowatt se si va alla montagna davanti non va da nessuna parte, se invece c'hai mezzo watt e c'è l'apertura ne fai di strada. Sì, guarda, c'era Falchetto, non c'aveva un'antenna di cavolo, con un baracchino di cavolo, ci accompagnava tutte le mattine presto, quando c'era, sino a Macomè. Tutte le mattine, lui a radio solo, mi ci accompagnava benissimo sino a Macomè, e non aveva problemi. Se andavi verso Sorso, dalla parte di Castelsardo, poi era perso, non c'era rimedio per lui, non c'era rimedio. Ma andando verso Cagliari, lo sentivi, lo conoscevano tutti a Falchetto perché lo sentivano tutti, addirittura Falchetto copriva qualcuno e parlava tra di loro lì in campena, ti puoi immaginare. Yeah. Ok, vabbè signori, io adesso devo interrompere, saluto tutti, spero di non dimenticarmi nessuno, siamo da vicino l'ultimo che ha ascoltato, poi Claudio, Gianluca, Salvatore e Luca Del Monte e tutti gli eventuali amici qua in ascolto sul canale 10, QRT da parte mia, ciao a tutti e buon proseguo. Zitti, voilà, ciao, fate buon proseguo della serata. Ciao Roberto, ciao, buonanotte. Ciao Roberto. Ciao Roberto, noi prosci. Gianluca. Guarda c'è mania, tu li ascoltati con i baracchini, che mamma mia. Avanti, Salvatore. E capa, ciao Roberto. Alle prossime, buon proseguimento di serata. Io infatti Gigi, io sono ad esempio in un cono d'ombra per quanto riguarda proprio la parte verso Ozieri, per intenderci. Io sono proprio, stando qua sotto, sono proprio in un cono d'ombra e non ricevo nulla, proprio silenzio assoluto. Chi è più distante invece, uscendo dal cono, riesce ad apprezzare i segnali che arrivano dalla parte sud. Io sono proprio sordo. Sì, positivo, ma io arrivo quasi, adesso mi ricordo bene cosa aveva detto quel Nino, che ero, per esempio io dentro Macomere arrivo 9-10, dentro Macomere, a me mi ascolto 9-10 da qua, per esempio con questa radio così, arrivo Santiago di 9-10, dentro Macomere, dentro l'abitato di Macomere, mi ho fatto già la prova, io da qua, un giorno che c'era Pierpaolo, era dentro dove c'è il coso dei militari, dentro per andare verso San Leonardo, dentro Macomere, e lui mi ascoltava un segnale 9-10 da qua a me, io in vettura, lui era in vettura, io lo sentivo benissimo qua, qua nella mia posizione, io per esempio qua a Campera arrivo a una meraviglia da qui, e se prendo da Monte d'Accutti, sai qua facendo il laboratorio di Monte d'Accutti, io mi capitato in camion lì, a Borone dove c'è che è un fosso, Borone dopo Macomer, che c'è Albino, che c'è la stazione fissa, io lo sento perfettamente da quel punto lì, da Monte d'Accutti, e tu arrivi, ci arrivi quasi a Oristano pure, lo sai, da Monte d'Accutti, dove c'è il coso il gigante o il cavolo cecchi lì. Comunque mai capito lì Monte d'Accutti. Assolutamente, sì. Ma io ricordo, guarda, con questa stessa radio, quando ero in via Monte Grappa, il palazzo, quello subito più in alto rispetto alle belle arti, cosa diavolo è quella beni paesaggistici, quella villa che c'è. E io lì arrivavo quando trasmettevo, arrivavo tranquillamente e dialogavo con un CB che tanti anni fa c'era a Bonorva, e mi sentiva benissimo, quindi verso quella parte ero completamente aperto, ma stando però spostato verso l'uscita di Sassari, per cui non ero in un cono d'ombra ricevevo e trasmettevo di gran lunga meglio, assolutamente. Sì, no, ma attenzione, Bonorva è positivo per Sassari, io quando arrivo lì al bivio di Bonorva io sento a tutti, a Luca, tutti in quelle stazioni fisse li sento, e tutti, riesco a sentirli tutti, quelle stazioni fisse, da Bonorva, dal bivio, è un punto buono quello lì, è un punto, anche su da Campeda è buono, ma anche dal bivio di, come arrivi al bivio di Bonorva, li senti tutti a bomboletta, proprio dove c'è Bonorva, proprio il paese, tu lo senti a bomboletta, tutti quelle stazioni fisse di Sassari, Sì, ci problema che loro non sento a te. Se parlo io, ma stai scherzando. Quante volte in qualsiasi tu rientrano a Cagliari, il primo da agganciarti è sempre io. Se c'era Roberto, magari, ti sentivo anche Roberto, ma io mi ricordo tempo fa che ero più presente qua a 27, ti agganciavo sempre io, poi tu magari sentivi, però loro non ti sentivano, invece quando tu chiamavi io ti sentivo subito. È sempre lì il discorso. Dopo che ho accompagnato a Tommaso, io, dov'è che abita Tommaso? L'Uramene. Beh, più lontano di Oristano. L'Uramene è 20 km da Cagliari. Poi ci di tu il giorno? Mi pare che c'eri anche tu il giorno, stavi rientrando. Quindi ho accompagnato sino a sotto casa sua col camion, perciò. Dipende dalle zone, non è che uno può dire quello arriva meglio e quello arriva peggio. Io ho la fortuna che sono quassù, ascolto tutti e mi ascoltano tutti, anche dalla parte del mare che ho una copertura lì di Monte Bianchino, tutta quella zona del Monte Alto, eccetera. Certo non arrivo come arrivo dalla parte sud, però arrivo lo stesso, mi ascoltano. Mentre molti fanno difficoltà, quindi Salvatore ad esempio non sente Ottieri, non sente la parte, insomma, lato oltre le gallerie, perché è troppo sotto, però sente molto meglio sicuramente la parte del mare. Positivo. Oh, Salvatore, Claudio, tu ti, io, mi pare che un giorno ti ho chiamato e ti ho fatto sentire al telefono lì a Macomè. È una cosa impressionante, proprio come lo senti adesso qua, è una cosa impressionante. È andato male, porco rugoniglio, lo sentivo, non l'ho perso mai. Però anche Tommaso c'ha una bella trazione in camion, lui c'ha un 1200, c'ha una bella trazione in camion. Cazzo, ma ragazzi, dice, ma niente, dice, mi ha accompagnato, cazzo, dice, Noristano, sempre lo senti. Ma comunque a Claudio lo sento, è capitato a me parlando con voi, sentivo solo a lui. Noristano, mi è capitato a me di sentirlo tutta la strada salendo e coso, poi gli facevo chiamate e lui mi dice, ma un giorno ti ricordi che ero Oristano, che ero nella zona di Santa Giusta, ti ricordi Claudio che mi ha chiamato tu, che mi sentivi? Sentivo parlare, ma dici dove sei? Dove sono? Mi ha detto. Dove sei tu? Io sono a casa. E tu mi hai detto io sono a Santa Giusta, ha detto Madonna Santa. Siete qua a Sassari, stavi parlando con quei camionisti che ad esempio io non sentivo. È positivo, è vero, sentito, mi sembra Claudio questo, mi sembra lui parlando. Ecco, ma addirittura un giorno a Salvatore, in quella zona, ti ho detto io, del lago di Barassa, anche quello me, la zona Oristano, lo prende, senti, a Salvatore, io ero a tra Terralba e Marrubio, ma sentivo chiaro a Salvatore, ci siamo parlati, ma sentivo chiaro, secondo dove si metti in quella zona di lago di Barassa, anche lì è aperto per la zona di Oristano, arrivi benissimo, da quel punto lì. Ciao, credo di aver sottoaspettato il tempo buono, devo mettere due motori alle antenne e poi facciamo girare l'antenna ai 10 metri e vedi che le cose cambiano. Già cambiano. Adesso aspettiamo il tempo bello e poi completiamo i lavori. Poi faccio la prova con Luca per il puntinato, vedi, che deve segnare più forte che vai. Roberto se n'è andato, già ne ho tu Roma, non c'è. Ciao Luca, ci sei? Eia, ci sono, sto salvando un attimino, uno spilottino e dopo vediamo un po' se ne abbiamo voglia di fare qualche controllino. No, te l'ho detto Gianluca, perché la settimana scorsa io ho fatto una grandissima affrontata in 10 metri e stavo anche pompando perché è l'unica banda dove c'è un amplificatore. Non mi sono accorto però che avevo il 440 nella stessa banda, anche se era diversa frequenza. Ho trovato, ma un secondo, ho trovato un colpo, ho commutato l'antenna, fu tutto. Mi si sono bruciati i diodi MOSFET del ricevitore, quindi mi si è attenuata la radio di 20 dB, e non è poco. Infatti i segnali alti vanno molto bene, oddio, va bene, non è che perdo molto. Segnali bassi, devo cambiare radio. Infatti sto aspettando che si riprenda Carlo, uno dei motori di Chiaramonte, che siamo molto amici, perché è influenzato. Appena si riprende dell'apporto me li faccio sostituire, sono una cazzata, però sono messi in un punto talmente brutto che non è cosa da fare io. E quindi me lo faccio fare da lui, per quello ho detto stai attento perché guarda niente che ti fotti anche se è un baracchino, non conviene mai ascoltarsi con la tua radio, vabbè ci vogliono le radio che c'hanno il money, ma questi HF, però a volte capita anche più esperti, a me mi è proprio, ho fatto una chiamata ma proprio così perché c'è un po' di preparazione. Ho girato l'occhio, ho visto il 440, il 28500, il 28300, ho visto un po' figato, ho commutato, ho visto che c'era una differenza di 20 dB e quindi chiaramente si è attenuata, una tronzata, però intanto bisogna stare attenti, tutto qua, davanti sabato. Via, è così. Signori, io vado in QRX, sta riniziando il secondo tempo della partita, me lo guardo. Se ci siete, frappe, quando finisce la partita, ritorno. A dopo, ciao a tutti. Ciao Salvatore, grazie della compagnia. su Burdacca alla metà di serata. Ciao, ciao, a tua presto. Buona partita. Mi vado a guardare un pezzettino, poi mi sono entrato qua a guardarmi le Iene. No, io ormai lavoro, ma non sono preoccupato del tanto. Non devo fare grandi cose. Un girettino di controllo, solo il tran tran per me è quello. Avanti, dici. Ciao Salvatore, dai, fatti buon proseguo della serata. Con tutto, no, io lavoro domani là. Io lavoro e non so neanche che ore sono. Ma non c'è nato stanotte, ho mangiato poco fa, poc'anzi, frittelle. Mi hanno saziato e no, non so che ore sono, cioè, saranno già le 9:30, che ore so? È 10:10, già è presto. Ah, mi hanno fatto una bella insalatina con fettine di cavallo, poi anch'io ho assaggiato una mezza giratina di frittelle, non le abbiamo fatte noi, qua no, fritti non ce n'è, non se ne fanno, non esiste, il vicino me le ha portate. Infatti sentivo questo profumino e tu dici di guardare per prendere il frigio, il momento di tu dici di guardare per prendere il frigio, lasciando il campanello e tu se mi hai sentito, non ti ho pensato, bravo positivo, immaginate che sai chi le ha fatte le frittelle, prova a immaginare la tu le hai fatte, cosa chi le ha fatte tu, mi devi sai fare quelle cose. Le ho fatte proprio io, però a posto di là ce l'ho messo la qua a vite e tu ci dà ancora più buone. E anche mia suocera a volte le faceva collanici, a volte le metteva la qua a vite e le dà un gusto molto molto buono, molto buono. E la pazzia la fritte in questo periodo, mamma mia, dici. Siamo quanto non ci vediamo, forse 2-3 settimane. Se vedi come sono ti spaventi. Cazzo, non riesco manco a inchinarmi a lasciarmi le scarpe troppo. Voglio una mazza, non voglio più. Mi ero promesso di dimagrire, invece con la scusa che sto fumando quasi niente. Quasi niente, ho sempre fame, sto sempre mangiando, il movimento è ancora sempre di meno, perché mi hanno dato delle zone dove non c'è da fare niente. E sono sempre ma niente. Arrivederci, una zona dove ho fatto il banino. Perché c'è un collega che se non si fa il panino lui muore, quindi anche io ho preso a lui. Poi mi bevo la seconda della giornata, o mi bevo un bel bicchiere di vino buono in quella zona, oppure una lattina di Coca-Cola, quindi via. A luna, che c'è sempre quella mezz'oretta, come passi a nulli, e anche assaggio a lungo, assaggio a battere, sto sempre mangiando, faccio schifo, sono già 90 kg. Non mi do una calmata, ho un po' non mi trovo neanche l'uccello, vai già lui. Sambullana, sambullana. Ehi, Giugge. Beh, sambullana, cazzo lo sei. Ti mantenti, sì, stavo dietro. Ah, non si può una dieta, no? Cazzo, mi lasciamo troppo sto Giuseppe. Troppo, faccio una faccia, cazzo, non voglio visto, per carità. Tutto proprio sto, mi sto gonfiando, bisogna che smetta di mangiare di bere, perché in questo periodo, in questi giorni, tra spuntini e balle varie mi sono troppo lasciato andare. A togli mangiato 4 watt, il piatto di vava a nulli con lui, con 4 pezzi di salsiccia, di tutto, di raccoltella, di tutto, poi una bragonaggia. E poi il pane col brodino, il pane secolo grosso, tipo spianate, tutto bello affogato, il brodino delle farre, passata di frigione di tutto, no. Dobbiamo farlo da bravi, altrimenti è un casino. Anche tu ti stai andando a fare però a lui. A proposito, vabbè, non te lo chiedo, con la questione non hai fatto, a posto? A casa, sì. No, della? Aspetta, non mi ricordo. Cosa hai detto, Cla? Perché non vai a casa, sì. La casa? A casa è tornata. Capito, con la cosa è tornata a casa. Cazzo. Qua? Sì, Claudio. No, stavo aspettando altre cose. Sì, è tornata. voci. Non ti volevo dire, insomma, ti ho trovato la cosa, tornato a casa, non mi capivi. Va bene, meglio così, sono contento. Ok, Gesù, a te, guarda che mi pare c'è, io sento in macchina, qua arriva, ma molto attenuato, e sto usando la tua radio, come vi ho detto, mi si è attenuata alle 20 di bitolo, mi sento tutti e non ci sono problemi. Se mi riesce. Lo senti Giuseppe Gianluca, dove sei? A casa sono Claudio, a casa. E perché sei così in basso? Perché lo sai che c'è quel problema davanti a te, no? Ah, ecco perché posso venire in macchina. Quindi Gigi, non lo senti neanche tu Giuseppe? No, già lo senta Giuseppe, già. No, l'ascolto pure bene, insomma, un po' bassino ma già l'ascolto benissimo, una radio di 4 ma già l'ascolto. Ciao, di diretto, Montano, buonasera, grazie, sono entrato così, sicuramente era dopo, interessato a Claudietto che sarebbe stato un paranotolo. Comunque, là, sono 5 giorni con oggi che non so come una sigaretta, cambio. E tu sai che a me mi fa solo piacere sentirti dire queste cose, Giuseppe. Per la salute e per la tasca, capito? E tu immagini, io sono dal 20 di dicembre che uso la pipa. Non ti nego che ogni tanto mi aiuto, ma la 40 sigarette, anche se ne fumo 3-4, non è quello il problema, però va molto molto meglio come respiro e come tutto, in quei giorni di carnevale, qualcuno l'ho fumata in più, ma eravamo in festa, se non te accorgi neanche, però poi si riprende la normalità, va bene, va bene. Dove vuoi andare domani, Gigi? No, domani sono in zona di qua, dai. No, bene, questa settimana scorsa ho lavorato parecchio, ti dico, ho viaggiato parecchio e niente, mi ha detto domani mi lascia qua perché no, troppo, ero troppo sotto pressione, io e Mario, l'altro collega, ci abbiamo un paio di macchine in officina, quelle sono rimaste quelle di riserva, quelle vecchie che non possono fare chilometri, allora ero io e Mario che dovevamo camellare. Gli altri autisti erano qua sempre in zona e niente, ce n'è ancora una in officina a Oristano, alla Oscania di Oristano, le stanno buttando giù in terra il cambio motore, si è filato un carte che stava perdendo olio e niente, allora dovevamo camellare noi, dai, viaggi lunghi e le cose dovevamo fare, fate venerdì o Cagliari, stiamo portando sale per la neve, infatti venerdì ero a Buduso, scaricato a Buduso e ho ricaricato lì vicino stesso momento, sono andato a Cagliari, ho caricato e sono andato a Buduso a scaricare il sale, capito? Infatti si sta anche a Pinuccetto, voleva andare da lui a cosa, a pranzo, a Pieno, ho detto lascia che ero già con quelli là che... con quelli che sono andato a scaricare cosa, ho detto no, non ti preoccupare, sono già niente, dai, che poi dovevo rientrare, sta vanificando lì, è un casino, ma ha fatto il posto con la loro c'erano lo stesso, lo spartanete, quelli che spargevano il sale per entrare a scaricare e niente, non ci sono andato, stavano facendo acquavitte, mi ha detto vieni, stavano facendo acquavitte il giorno venerdì, dai, e non ci sono andato però. Allora sai che sono 5 anni che non tocco una sigaretta, 5 anni. 5 anni? Ma visto? Non fumi e ti vengono tutti i mani, tutti gli attacchi, tutti i cusci. No, io sto andando benissimo. Io ho questa elettronica, a casa non sto fumando più, che era la cosa più grossa, perché stanno alla radio, ho sempre la sigaretta in bocca, invece niente da fare. Sto benissimo, non ti nego che purtroppo ancora non sono del tutto, non ho mollato del tutto, ma 3 sigarette, 2 sigarette a volte vanno capito. ne fumavo 40, io 40-45, quindi erano tante, adesso sto molto meglio, anche con il respiro, con la voce, con tutto, ho anche cantato l'altro giorno a Nulli, ma non ero io che stava cantando, era il vino sicuramente, però ho cantato, cosa che prima non ce la facevo neanche a sollevare la voce. Non è sbagliato qua, perché se si inizia una sigaretta elettronica, cioè non è proprio che la devi buttare la sigaretta, la devi, una, stai così, due, tre, non me la fai mai, perché la nicotina della sigaretta ti rimane sempre, invece se tu dai un taglio, te la butti, vedrai che la prendi facilmente la gana. Poi ripeto, se hai paura di ingrassare, quello è un discorso, però questa volta gente, non solo tu. Però io dico una cosa, se non arrivi pure a 80 kg, 90, no, mi ha funzionato, però la sigaretta, no, no, veramente, ma non è facile lasciare la sigaretta. Addirittura c'era un periodo dove dicevo, chi lasciava, chi riusciva, sapete, di fumare davano molto budget, di soldi, però dovevi andare ogni giorno, ogni santo giorno a controllare, se no è un po' facile così, sai che non esiste più però adesso. Grosso, grosso, l'ho sentito. E lui, io piano piano, ancora un po' presto, però ti dico che ho migliorato tantissimo, sono contento, perché pensavo non farcela, capito? Pensavo non farcela. Piano piano togliamo anche queste tre, ma ti ripeto, a casa non fumo, a casa non fumo più, ed è molto importante per me perché ribadisco che quando ero a casa fumavo più di fuori, in macchina non fumo, quindi assolutamente. Capita qualche volta sono in qualche cantiere così, l'istinto, capito? L'istinto, me la offro, la prendo, l'istinto proprio. Qualche volta dico anche di no, do due tirate della mia sigaretta, però se con la giornata che ho voglia di fumarmela me la fumo. Non è che incide più di tanto, sì, si sto ingrassando come un porco, Luca, non mi sta più niente, mi voglio incazzata nera, ma ingrassando forte, ma forte, forte, forte, quindi devo eliminare un po' il mangiare, va, però pazienza, avanti Gigi. Ciao Giuseppe, dai, fate un conclusivo la serata, vai qua. Ciao Giuseppe, buona serata con tutte le prossimine. Vai Luca di Sassari, poi vai per Gianluca di Parotto Resilu. Ciao Giuseppe, faccio un bacio, ti ascolto, Avanti, porto, Torres. Ciao Giuseppe, non so se mi ascoltavi tu a me, ti sento basso basso, ma non ho capito, si trova in vettura. Michele Polverone poco fa, poco fa, sono state le 7 e mezza. Ma chi? L'ho sentito che chiamava qualcuno. Cagliari. Sì. Dopo per partire domani mattina presto per partire. E anche lui, cazzo, non sta facendo i sacrifici, Madonna Santa. Per carità di Dio. Quando pensi di essere arrivato, cazzo, a me è questa cosa che mi dà fastidio, dici. Adesso anche nel discorso tuo, sono una macchina in officina. Cazzo, mi gioco 40 anni e ti devo sviluppare il lavoro io, che ci sono una vita. Mentre gli altri autisti, cazzo, devono girare qua in zona, ma non è assolutamente così che funziona. Cioè, cazzo, lui vuole avere una vita, Michele, capito? Una vita. Si può trattare la gente a cacci nel culo, Gli altri, vabbè, lasciamo perdere, se no poi, ne ho già parlato con lui di queste cose, capito? Quando pensi che sia rivito, cazzo, devi tornare come te la capo. trasporto, a vivere come gli zingari, viaggiare a destra e a sinistra. Io l'ho fatto trasportista, io l'ho fatto. Abbiamo costruito il depuratore della Saras nel 1991. Io viaggiavo da lunedì al venerdì a Sassari, capito? Viaggiavo, dici, viaggiavo. Ho comprato una macchina nuova, in un anno ce l'ho buttata. Viaggiavo, adesso di viaggiavo tutti i ritmi. Viaggiavo tutti i ritmi perché non mi potevo permettere l'uso di prendere la casa in affitto nel 91, capito? Quindi, non te dico nulla, andiamo giù, cosa vuol dire? Andiamo giù. Io non vedo manco guardarrail nella 131 centrale. Quindi a colpo di sonno, cazzo, ti trovavi alle 4 del mattino in corsia di sorpasso, capito? Sacrifici, purtroppo, sacrifici. E poi arrivi alla fine. Quando pensi di aver finito, ti accappano per 10 anni di lavoro, cazzo. Ma fa cosa? Vado a mangiare al Monte dei Paschi di Siena. Buonasera. Ma sì, cra. Io mi vedo quasi tutti i giorni quando vado a Cagliari con Michele, ci vediamo quasi tutti i giorni. E qualche lunedì abbiamo preso il caffè lì a Campomera, mi sono detto cosa che partono a quell'ora, lui a volte insieme con Guido, l'altro autista, che prima dividevano l'appartamento, l'affitto, invece poi Tito Guido fa una cognata, cosa va, non so cosa c'ha lì. A Cagliari e lo stanno ospitando questi qua perché a cosa vanno e non rimane più niente a Michele, tu devi capire. Adesso non mi ricordo se mi ha detto 400 euro, 350 euro l'affitto. Tu immagini che ti devi pagare, ti devi mangiare in kiwi, devi cucinare, fare, devi comprare la roba magna, e l'altra famiglia che è, no, che è la moglie che è qua, pagate l'affitto, se dovrà pagare, adesso non so se è compresa di luce, se devi pagare luce, se deve pagare pure luce, queste cose qua, comunque pagate questo affitto lì, che adesso è solo perché questo Guido, l'altro collega, se ne è andato a chiedere, se no dice si deve licenziare, perché non c'era rimedio, lui che non gli è rimane niente perché paga l'affitto lì, avevamo messo 350 a 400 io l'affitto lì a Cagliari. E poi viaggiare lì, ma deve gestirsi lui lì da solo, cucinarsi, fare, comprare, c'è sempre spesa, non sono solo le 400 euro, ma non mandano la decorazione, in poche parole, la roba la sera serve fare, serve comprare la cosa, farsi, via dicendo, e tu c'è la spesa qua della famiglia, e cosa rimane a fine mese? Non rimane nulla. Salina Udua, Michele, Ascamercato. Avevo un amico e se lo stavo raccontando questo fatto qua, mi è girato allucinante, ma la cosa non era un credere. E ha fatto mica se lo voleva, purtroppo era qua, si è andato io la ritorna un altro lì e non so come fa sacrifici, ma fallo e va la moglie di Nocchi, non si mica si può arrivare la moglie di Ghidà, poi va la famiglia Nocchi, ecco, vabbè, chissà che cambiano anche per lui, detto che io ho qua. Ma ci mandano qualche altro, c'è un vecchio avanti. Buonasera a tutti. Buonasera anche a te, chi è? Eugenio. Eugenio, anche a te salutoni. Luca, la questa, la Sassa, di avanti, Clare qui. Sì, c'è anche Gianni Lo Più Romo, ciao Eugenio, buonasera, avrei sentito avanti Gianni. Sono io, Luca, Gianluca, Giuseppe ha fatto QLD e Gigi Vulcano e B2, avanti Lo Più Romo. Ehi, allora, buonasera a tutti, dai. Avanti, Eugenio, là, che sei stato per l'ultimo, ti facciamo fare il passaggio e poi arrivarci a Gianluca. Allora, dicevo, buonasera a tutti. Tutto a posto? Ciao Claudio, avete sentito? Ciao Gigi, ciao a tutti. Nottata di merda, ragazzi, nottata di merda. Non ve la posso più. Riprendi Gigi. Dal lavoro o dallo stress del lavoro oggi? Magari dallo stress del lavoro, magari. Poi un casino. Vabbè dai, non entriamo nel merito. Ho capito già da stasera che. Ho capito, però non entriamo nel merito che sono problemi cose tue. Sono cose tue e fai girare a Gianluca. Gianni Doppio Ru entra. Ciao Gianlu. Sono rientrato via adesso che se ne sono andati. Una metà è rimasta, stava quella di film con mia moglie e gli altri. E io mi sono venuto qua. Degli invitanti, se tanti non posso solo farci di tanto, vediamo poco. Ok, adesso sono proprio di solo, Adesso scendo bene. Sì, della gente che c'era a casa. Eugenio, non ti abbattere. Non mi abbatto, no. Io già sono ancora qui. Non mi abbatto. Poi Gigi, come è questa radio? Sto usando il microfono a base. Va bene, Eugenio. Va benissimo. Vabbè, ma tanto tu sei vicino a me, in poche parole, in radio sei molto vicino tu a me. Se sei a casa sei molto vicino. Sì, sono a casa, adesso mi pare di coso. Claudio. Dimmi, Angie. Sono un po', sto usando un microfono da banco. Va bene, come la radio? Perfetta. Buona presenza, amplificazione, ce n'è la grande. La tonalità è buona, il segnale te l'ho già detto, sei 9 più 10. Con picchio 9 più 13 qua sul 440, anzi questo è l'altro 430. Ti andranno benissimo oggi, molto molto bene. Allora buono sentire quello, ok, perfetto, allora sono contento dell'acquisto che ho fatto. Già lo riprendi? Però non so come cavolo ho sistemato, l'altro è perpendicolare alla via dove abito. Adesso ho messo l'antenna, vedo un poco come va con questa antenna invece, questa radio. Allora, con la verticale 4 oggetto, sei 9 più 10, con il dipolo sei segnale 7, va molto bene, dipolo. Beh, allora devi sapere che sono detto provati orizzontale, quindi come il filo va a tendere, per capirci, i due lati sono sia a nord che a sud, se lo metti a V invertita fanno da polarità il polo più alto che tu metti in uscita verso Sassari, quindi dipende da te. Io quello che ho, c'è la polarizzazione orizzontale, lavora su quattro lati, avanti, dietro e sui due angoli, e quindi non ho problemi. Ma vabbè, è molto in alto e i poli più in alto sono meglio, sono poi questo è un dipolo. La 27 è quello che ho io, è 25 metri per braccio, quindi un'altra buba. Comunque fai molto bene. 7 con dipolo e 9 più 10 con l'antenna. Gigi a te, fai girare per Eugenio, vai. È positivo, Claudio. Un'altra cosa invece, io ho un qualcosa di, della buona mia Giancarlo, che aveva fatto, poi te l'ho fatto vedere qualche volta, poi te l'ho fatto vedere, quelle fotocopie, quelle cose mi aveva dato dei Di Polo, quelle cose lì. E ce n'è in qualcuno che c'è, ci ha messo il cavo, un pezzo, adesso per conto, la misura, c'è la misura, il cavo dell'antenna della televisione, un pezzo, e poi da lì collegava l'altro cavo. Adesso dice che cosa cambiava la non so che cosa, questo cavo d'antenna di televisione, partendo dal dipolo, mi pare che adesso non mi ricordo quanto era, 1,35 m, 1,20 m, adesso non mi ricordo quanto era la lunghezza, ce l'ho segnato, mi ce l'ho lì, ha fatto tutto lo schema il coso lui, e poi partiva il cavo dell'antenna per il palazzino. Perché dice faceva la, faccia segnato, mi ce l'ho, infatti l'ho fatto vedere quei fogli lì. Sì, ti cambia l'imparenza, perché il cavo della TV è 72 ohm, mentre quello che usiamo noi è 52 ohm, capito? Ti cambia l'imparenza, quindi automaticamente ti dà un raggio di frequenza molto più largo. No, va molto bene il cavo TV, va molto bene. Non ho capito niente, io che avete parlato in due con Gianluca, ci avete quasi lo stesso segnale, cosa hai detto? Ho detto che è peccato, mi hanno prestato una radio bella, però non potevo spiegare il microfono, non la posso provare. Ma c'è quello che adoppi nel cap, il 48, l'ora 48 ci hai attaccato adesso oggi? Sì, adesso l'ora 48, però mi hanno prestato un altro, che aspettate un attimo che vi ricordate che marca è, un Uridon, c'ha il grigio davanti con i pomelli cromati, è un due caracchietto, l'hanno pensato per farlo girare, per farlo scagliare un po', però non funziona il microfono, se l'ho rimesso. Ma è passato il contrario, però. Non lo so, c'è una radio, una bella. Guarda, quando ti interessa, io ce l'ho una prestazione, va bene prestazione fissa. E te lo dico, a me me l'ha data in cambio di un'altra cosa Claudio. Capito? Io, siccome ne ho tante io, mi ha detto su a casa, ne ho una marea. Quella va bene, ti ricordi quando mi ha dato quella lì? Perché quella lì è nuova come radio, una bella radio, fa tutto, va in banda laterale, in FM, e cosa fate da voi? Vabbè, c'ha le bande laterali, le FM e canali normali, quella è una bella radio a prestazione fissa, e anche se le tipa, è una bella radio, normale, voglio dire, è nuova quella radio lì, quella va bene. Per metterla della stazione fissa va troppo che bene. Vediamo, dai. Positivo quando no, senza impegno, non è che mi interessa di quindi. No, è lì me la cena ogni tanto, ma non è che non me ne faccio niente, non me ne porto proprio nulla. Voglio dire, però ne ho troppe, ne ho una marea, quasi tutte gemelle, ne ho una marea, ne ho. Di chi si va da chi, una giombe. Capito? Se non ne avrei avuto altro, ma ne ho un'infinità, ne ho. Speriamo, se mi piacciono. Claudio, la conosci il Cobra 29 LX EU? Lo conosci? Sì, lo conosco. Grande radio. Quella della categoria del coso, come si chiama? Del Magnum. Adesso me la radio si riesce a mettersi male quelle lì, stai pur certo che non hai niente da spartire con nessuno, bellissima radio Cobra. Io ne ho una dentro l'armadio che però è il Cobra, quello di vecchia generazione, 40 canali, base, va molto bene, però sono radio insomma che ho tenuto di collezione, qualche base l'ho tenuto, ma sono bellissime radio quelle, belle radio. Quella c'è Luigi, vedi, quella va molto bene con la MB più 5, quella va molto bene con la MB più 5 perché l'avevo provata io col 4, col 5, insomma qualsiasi microfono anche con sua volta quello andava molto bene, molto molto bene. Una radio nuovissima, 40 canali con le bande laterali, va molto bene. Facciamo girare Gianni. E che radio è? Che radio è, Clan? Che radio è, Gigi? Allora me la metto, cos'è? Midland, cos'è? Una la Intermission 88. Sì, l'Intermission 88, sì. Ah, ma non è base. Sì, però è abbastanza massiccio, è tipo l'OMS-200, una cosa del genere. Ah, ho capito. Quelle stazioni intermedie che vanno bene sia per macchina che per base. Sì, sì, molto massiccia, nuova, molto bella, guardate. Viene rottante, ce l'avevo in più, ho fatto a Gigi, abbiamo fatto degli scambi così tra di noi. Ma è molto bella, a parte che nuova. Ha lavorato pochissimo quella radio, non va un graffio, non vicia, poi molto bella anche esteticamente, molto bella, c'ha tutti i pomellini argentati, sono Gigi, no, dorati sono Gigi, no? Non me lo ammetto, però. Non me lo ricordo, lo sai, non me lo ricordo, adesso è garage, è attaccata, mi l'accendo sempre. È una bella radio, con il microfono io attaccata con l'MP4, con l'MP5, con Guido, lo promette con Guido, veramente un famoso di Sandro, se l'ha portato e la promette casera. Allora, andava con tutti i microfoni, andava quella lì, è bene pure. So, io non l'ho trovato con il microfono, adesso andrò a canonata. Ma lì ti ho sentito anche con più 4, più 5, andava molto bene. Molto bene va quella radio. Sì, beh, radio così, a parte fatto quella monolatta, c'è la vecchia monolazione, quindi va benissimo. Però sono delle belle radio. Sono delle belle radio. E vabbè, insomma, bisogna iniziare oggi e fare qualcosa là. Piano piano già ti metti adesso, ti sentiamo la casa, io ti ascolto veramente molto molto bene. Te l'ho già detto, complimenti. Sì, 9 più 10 è abbondante, la radio è super 5, c'è un segnalone bello massiccio qua. Avanti Luca, di Sassari, vai per Gianluca. Yeah, no, ti ascoltavo un attimino su canale 5, rimanete voi, tanto già è presto ancora, non è tardi. Riprendi tu, però Gianluca, avanti. Vediamo, ok, dai. Io lo stesso mi riesco di fare qua. Passo un'altra bizona. Cioè, che cosa? Ma di cocca. Una dinamo è. Una dinamo che è di cocca. Non ha pradina il dinamo, gli si pide. Una capitura, Niente, io devo trovare un compromesso adesso per quel microfono lì, a vedere cosa diavolo va sul gatto dello Sidene. Da Regine ci sei andato già lui a sé? No, non ci sono andato già, devo prendere questo decoder, devo prendere. E a Fusaro, che ormai te l'ho dato di marca buona, e ti dura, io l'ho preso lì e ti dico la verità, va molto bene. E uno lo devo prendere già, con la Fusaro, una CBC o una cosa cavolo è, la dice di tutti gli elettrodomestici, diciamo non analogico, però è bellissimo, vediamo di più. Oh, Gianlu, io l'avevo comprato uno, poi l'avevo dato a mio figlio, l'avevo pagato, mi fai roba di 9 euro, e chi so che è in fretta niente, la cosa è trone, come si chiama, è un euro, così si chiama, se è, lì l'ho preso, intanto mi serviva per del sole, e intanto poi si vuole pure la scheda dentro, volenti, l'avevo pagato 19 euro, col telecomando, e funzionava benissimo, poi si è bruciata, così, la tutta la televisione, non me lo ricordo, e ce l'ho buttata via la televisione e me l'ho preso di quelli che c'erano incorporato a loro e l'avevo dato a mio figlio piccolino mio, una cosa minorista e funzionava una meraviglia. E uno così non mi interessa che abbia la scheda a me, tanto è fa cameretta in due cose, una cameretta di 9 minuti la televisione, capito? Non è che mi interessa mettere la scheda, lo faccio perché faccio vedere la televisione. Cosa c'è? Ma le trovate eccezione col blocco affettivato? No, non ci ho provato che da 30 luce dire, come se ti fosse appena appena non esce più, anche l'antenna non sembra nulla, capito? Non esce da, a 10 metri non arrivi più. Sta rovinata l'antenna? Non lo so, l'ho provato a collegare così, visto come l'ho passato nel cofano, come me l'aveva col tuo, per trovare i miei figli, e boh. Con quelli che abbiamo a lavoro, capito? Ho provato un quello lì, ho messo prima a fianco uno e a fianco l'altro. Io uno in trazia e l'altro in trazia. E può darsi che sia l'antenna dove siamo da cavolo. Io ci vado bene, ti ripeto, quello da tuo prendeva un sentito anche all'ufficio merci, quindi non so che funziona, però quando aveva l'antenna integrata. Ora non so se c'è qualcosa per l'antenna sbucciata, non te lo so dire. Infatti ancora giù sono nel cofano, come che come l'ho preso lì d'accordo, Giampaolo l'ho lasciato lì direttamente. Cosa c'è? Problemi di antenna? Problemi di antenna? Sì, le VHF. No, un'antenna di un coso così, di chi si porta anche da canali. Ah, PMR, RPD. No, non è PMR, RPD. Il presidente di chi è un VHF. Dicessi che trattiamo a travaglio lui, canalizzati. Ah, ho capito. Sono i vecchi Motorola, effetti, una cosa del genere, usavamo noi in compagnia portuale, i vecchi baracchini, usavamo noi in compagnia portuale. Adesso siamo passati da altri modelli. Quelli sono civili, sono balle civili, quelle che usi tu. Usano i cantieri, chi si, Claudio? Ne ho anche uno io di quelli lì. Si usano il cantiere, quello lì. Ne ho uno pure io, ne ho, di quelli lì, con la carica batteria. Si usano quelli con il cantiere, ne usano di quelli lì. No, sono VHF, quelli che usano noi sono VHF, Claudio. Se scusa, parliamo con la capitaneria, se parliamo di più, sono VHF, va lì, dai. Sì, ad uso civile. Quindi sono ad uso civile, non ne hai di licenza, la licenza c'è la compagnia portuale e tu ce l'hai in uso, capito? La licenza c'è la compagnia portuale per usare quelli, perché è ad uso civile. No, io ho un patentino qua a casa, mi lasciato tramite la compagnia portuale, però c'ho un patentino inattivo, io ho un patentino inattivo. È come quello che ho io ne ho uno di questi qui, se intende pure senza antenna e se va giù io, l'antenna si potevo, io ne ho uno qua, avevo preso il salvatore Branca, 50 euro gli avevo pagato, se devo dare a uno e poi non se l'ha mai pigliato, non l'ha voluto più per mettere solo in barca, e quello senti la caffetteria, senti tutto con quello lì, quello che ho io che te avevi preso tu un giorno qua per darlo, non mi ricordo a chi, che non l'aveva voluto, ti ricordi, capito? Non avevo VHF manino. Sì. Quello in veicolare, ma lui c'ha quello portatile. Ti ho capito, siete autorizzati nominativamente. Non è che hai dato l'esame per avere quello, non c'entra niente, quindi si chiama patentina d'uso civile. Tu quello è VHF, lo puoi usare solo durante l'ora di lavoro. Se ti trovano parlando, se ti trovano a postare o lo schermo radio, parlando con quella radio, al di fuori del tuo ambito di lavoro, si utilizza. La posizione fissa con antenna alta, però c'è anche portatile, sì, però uso civile come dici tu, o lavorativo, non so. Possiamo ascoltare a casa e possiamo parlare, possiamo comunicare solo intorno al porto. Sì, lo conosco, era un vecchio decreto legge, che si aveva sempre avuto la compagnia portuale. Io sono cugino primo grado e secondo grado di Eugenio, quindi me l'aveva detto proprio lui questo, Eugenio Coscio. Quindi lo so, perciò usalo quando devi usare, basta, ti dico. Ok, Gianni, a te. E prima c'era il coso, ci parlavamo tutti questo patentino marino, che pure non so cosa viene in vai. Se lo rilasciano così, me. ti conosce pianuta. Non è cosa di, c'è un po' di pilomania di cosa, ma la parola stessa lo dice, se Marino è Marino, è un patentino per mattanti, quello per mattanti, dove tu sei autorizzato ad usare il VHF Marino nelle bande canalizzate che la capitaneria ti assegna quando sei in navigazione, punto, ok, quello lì. Non lo puoi portare a casa, non lo puoi usare al di fuori della barca, perché a casa non lo puoi tenere, quello non si può tenere a casa. Invece nel discorso di Eugenio, visto che ha lavora in quell'ambito, è autorizzato allo spostamento della radio stessa e ad usarlo nell'ambito lavorativo, quindi usarlo tra casa sua e all'interno del porto. Non può comunicare con nessuno se non con i suoi colleghi e con quelli autorizzati come lui, giusto? Sì, noi parliamo con i piloti, i guardaggiatori, le linee, le guardie, veramente, con gli uffici medici, capito? Con la capitaneria. Sì. E così, no, per rispondere a Gianni, giustamente ha detto cosa ce ne va del tuo patentino marino, te ne va nulla già, e fa niente. Al momento che ti trova, per dire, la guardia costiera in barca e ti fa un sopralluogo in barca, dice i documenti del VHF, eccoli qua, chi è autorizzato a parlare del VHF? Io, mi fa vedere i documenti e tu lo devi presentare al patentino. Se nessuno dei membri dell'equipaggio ha il patentino per l'autorizzazione a parlare con VHF marino, ti fermano la barca. Infatti, se non va la barca cosa deve fare? Se chiamo la barca, tipo Roberto Quadrato che usa la barca, se lo porta in barca e lo usa, ma uno che non c'è la barca cosa deve fare? Se lo puoi ascoltare. Cosa ascolti già? Perché non puoi ascoltare che con il ricevitore che c'è tu, con la radio che c'ho io? Io ce l'ho la radio VHF che fa da 130 a 170, da 430 a 480, quindi cosa accade? Metto nel canale 8 che è 156 e 400 e mi ascolto in pescherecci, e chi me lo vieta? Certo non posso parlare perché non ci puoi parlare, neanche io, non posso assolutamente parlare, lo sto ascoltando e quindi non sto facendo del male a nessuno, capito? Brutto è se dovesse venire qua un controllo della postale, della scorradio, per qualsiasi cosa, anche se sono radioamatore, non sono autorizzato a detenere un VHF marino a casa, capito? La legge vuole per tutti. Claudio, prego se ne è volato uno bianco, anche il microfono era bianco, ti ricordi? Tutto bianco di quel VHF marino, prego se ne manca il microfono bianco. Sì, ce l'ha Roberto quello, l'ha fatto Roberto Guardato con la barca, eccezionale quella radio, ma veramente molto molto bella, ecco perché tu diceva Gianni, non me ne faccio niente, non lo posso tenere, non lo posso usare, non c'ho barca, c'ho solo gli sci per andare in barca e basta, e le scatole a tennis, e quindi Roberto c'ha la barca e l'ho regalato a lui, e va bene. C'ho qualche altra cosa, ho sistemato, perché mi ho svuotato, ho fatto dei lavori qua, quindi ho buttato via altri mobili, ho fatto ingresso nuovo eccetera, e mi sono portato tutte le radio, microfoni, cavi, gavette, insomma strumenti e varie varie, qua in cameretta nell'armadio che c'ho, che va sistemato Giulio. E lì proprio ho trovato l'altro gemello di quello bianco, Gigi, però è nero, Petrus, una cosa del genere, che uguale a quello che mi ha tutto, però anche che se è bianco è nero, capito? Adesso lo sto facendo a casa di Roberto, lo stesso perché anche lui c'ha la barca, gli lascio insieme a fare, l'ho arrivato a me perché l'ha arrivato a me, lui ce l'ha, se lo può comprare, la scelgo tutte e due, avanti Gesù. Figlia, il signor Pittino, cosa diavolo è? Ray Jefferson, Jefferson si chiamava, eh? Esatto, uno di chi sì. Quello uno me l'ha dato Gigi tutto bianco. E io ne ho trovato un altro, guarda quello però tutto nero. Vanno bene, sono canalizzati, volevano i 72 canali. Altro bello io. e un altro che l'ha pagato 50 euro quando aveva preso tutta la roba di Salvatore Maestrale, me ne ha dato uno di quello lì, ce l'ho qua e non me ne mostro nulla, non me ne faccio niente, e ce l'ho qua sempre nel trentano mobile, ce l'ho lì, non me ne faccio nulla, infatti se qualcuno ne serve per la barca glielo do. Io 50 euro l'ho pagato da Salvatore Maestrale, l'ho pagato, l'avevo preso per un amico, invece poi me l'aveva chiesto lui e allora non lo stavo prendendo perché non ne facevo nulla, e allora c'erano anche quelle questa cosa qua, è andato anche quello lì Salvatore, capito? 50 euro me l'aveva fatto pagare quelle specie di cose lì, e ce l'ho. Ho visto che funziona, certe cose le prende anche se si attacca l'antenna, l'antenna funziona, e se intende buso si attacca l'antenna. Guarda, c'è una sensibilità allucinante, adesso delle varie particolari, tra l'altro sono strani, è quello che mi hai dato tu, hai visto tutto in plastica, bianco, quello tu lo bagni, non si fa niente, sono fatti apposta, sono radio che devono stare in barca, radio che devono stare in barca, capito? E quindi vanno molto bene. E adesso chiedo a te lo faccio dare quello che fino a lì tanto te ne vengo da lì, dai a chi c'ha la barca, infatti poi c'è un mio collega che lo stava cercando, uno di Castelsano, per il gozzo, allora ve lo dico domani, ce lo becco, lo usci te lo vai tu quanto ne vai nulla. Dottor Rutte, le prendi, tanto da Luca sta guardando le Iene. E vabbè, diciamo che ormai la Roberto se lo utilizza con apparecchio, si fa un po' di ascolto, ma nel frattempo può essere sempre utile. No, Roberto per la barca che c'è è obbligatorio, tra l'altro, lui deve avere qualche femminino, capito? Per le barche così ci vuole qualche femminino, la Roberto è grande, la barca non è piccolina, quindi deve avere è oltre le 12 miglia mi fa, quindi deve avere qualche femminino, perciò ce l'ho avuto, ho fatto un sacco di cortesie, sempre un po' di roba gliel'ho data, ce l'ho portato un ricevitore americano di una nave che hanno demolito, ma anche a poco pesanti, molto bello, non ero di quelli proprio americani col microfono a radio cornetta, e vabbè, da poco gli ho portato un ricetrasmettitore sempre americano della prima guerra mondiale, fate il conto, e poi un altro di quel microfono a tavolo che è uguale al Turner, preciso, identico al Turner, non cambia assolutamente niente, infatti lui ci è rimasto e dice, ma ve ne c'è, no, questo è originale, il microfono però è verde militare, la tavola è verde militare, lo dice tra un editore di un elicottero della Marina Militare. Oh, quella è piaciuta da cosa militare americano, quella bianca, grande, quindi era cantabile serrotamente, si era aggrappato un po' di serrati, è piaciuta da dentro, da come si chiama, capito? La Maddalena, quando c'era il G8, stavamo facendo quella pure, era da cantarsi in compresso. E anche questi ci sono arrivati da lì, dai, per capirci, ci hanno mai capito. Io ho un sacco di amici in quella zona, poi anche nella zona di Olmedo, quando hanno smantellato la sede di Gladio, no, un sacco di roba, ma cassette intere, e siccome insomma, mi sono stufato di avere tutte queste cose, Roberto è un grande collezionista, ma non ho microfono, è rimasto così. Perché l'ho cominciato a fare più tre, mi serviva? No, ma voi da dove? Che si girato? Questo è il suo colore originale, verde militare, capito? Verde militare, proprio originale. Poi ho fatto un microfono di quelli, tipo la cornetta di battere la luce, una cosa del genere, così. Però anziché essere come il telefono, c'è solo una parte, capito? Col pulsante si mantiene, ma molto bello. Sacco di roba, l'altra l'ho preparata, avevo fatto pulizia in questo armadio e ne ero scesa, ma cazzo la tubiscia, volgolare, ma grandissima, enorme, è più grande dell'amplificatore del DAC, guarda, per capirci già, più grande del DAC, ma bella, bella, veramente tutta nera, molto bella, con la, col golfone, la manopolina, no? Con la, col gancetto che si gira, fare narici di visi radio spaziali. Va bene, allora il microfono preso Luca, poi va per Eugenio e Gianluca, ci sono sidromi. No, è lo che c'è, non ha il microfono, porca miseria. Tutto bene, ok. Allora provo un microfono un attimino, vedo un po' come ti esci. Oh ragazzi, non ci sono, io ho un'antenna CB marina, mai piazzata, praticamente che trovo sul campo non usciva, non devo buttare il bagno, è nuova nuova. Si pergunta o qualcosa che mi possa servire. C'è quella maradata, oggi si può chiedere sempre chi c'è la barca. Perché con le antenne ti ho detto se sei fortunato, io pensavo andasse molto bene lì da te sul campo perché sono antenne cortocircuitate che non hanno bisogno di massa e in quel caso come te poteva andare bene, però visto che non andavo. Gianni, ti servo la barca, comprata te l'hai. Faccio un baracchino oggi. Chi serve l'antenna c'è anche il baracchino, la radio fa la barca, tutto va giù. No, io ho l'antenna, se ti serve l'antenna, io ce l'ho, CB, antenna CB, non VHF, CB. Anda, parlo, pare, se faccio io per la barca, parlo ma, per quello marino che ho io. Ma il tuo è VHF. Che prende la caffettaneria tutto quanto per forza il canale si canale quello lì tutto si dice come il mare sul tempo quella lì c'ho io. No il tuo è un VHF, no? Il mio è un CB normale. Quello che avevo io in barca vabbè che ma chissà che lo si tende che si va giù la caffettaneria non la prende quella lì che non la prende ma che scherza va 70 milionari dice una bomba quello che può crescere marino va in navigazione ma lo mio è quello lì cioè quello lì io per navigazione capito quello che sono 16 canali mi pare quanto so no sono i miei 16 canali. Sì, quello lì. Quello è il veicolare per la barca, marino. Dove senti tutto, il meteo, la capitaneria, tutto. Non dovrete sentire le frequenze che c'ha Eugenio, perché sono frequenze a uso civile che usa la compagnia portuale, adesso non mi ricordo quali sono le frequenze. Perché sono canalizzati, però c'è una frequenza, in ogni canale c'è una frequenza, che credo che siano intorno ai 160, 158, una cosa del genere. Mentre tu invece vai a 156, capito? Doppio volume, non dico di sì. E Gianni si è calamaiato, già. Ho andato in cucina a mangiare i grigiori, doppio volume. Comunque ce l'ho, se fosse interessato, io ce l'ho. Nuova, non l'ho piazzata lì. Quindi, proprio l'ho vista, l'ho piazzata lì, piazzata sul campo, e non funzionava, ma se la stessa l'ho fatta. Abbascia giallo. Sono in prova, uno, due, tre prova. Ok, abbasso, ok, vediamo un poco, 1, 2, 3 prova. Aspetta, sento qualcosettino ancora. Ok, grazie. Tutte le macchiate, giallo, grazie per fianco, lo sento anche io. Non so se è la portante. È la portante. Come mai sta gracchiando? Vediamo un po', uno deve essere prova, un'altra prova. Prova a vedere. Ok. È un temporale che va in giro, rovento, romare, che può chiamare. Tutto il rumore del romare, del rovento è, giallo. No, no, c'è qualche cosa che devo abbasciare, devo appena appena unito, e sicuramente abbassare appena appena qua, Questo è, sto trovando l'attacco per essere giusto, dello scivolo, questo qua. Non mi piace quanto radio, è troppo, c'è una relazione troppo complessa, troppo chiusa, non sento le tonalità oggi. Positivo, no, prima stava andando bene, no, è il microfono, non è la radio dava sempre la fattezza, il microfono che lui stava provando, l'altro microfono. Sì, sto provando proprio il microfono qua nell'effettivo. Si è fatto la voce da femmina, in altra casa strappata. No, non mi piace. Avanti, Gesù, prendi. Mi sto guardando sui beni, però le cose dopo la negozio. Il coso, come si chiama? Il baracchino che piace a me. Cobra 29 NX1, più modifiche, novità tipo la 48 euro. Guardando per vedere cos'è questa cosa. Devi prendere tu per casa per cercare i veicolari. Veicolari ne hai uno. O ti prendi un veicolare battagliero come quello che ti ha detto Gigi, ok? Ti metti come BP5 e ti usi quello e l'altro lo usi in camper. E se non devi fare qualcosa di grosso, mettere un bel base, insomma, in modo che ti consenta di fare un po' di più, ma già con un bel baracchino fai tanto, la 48 non è il massimo normale da casa, ma dice di Radici quel Midland la 88, quello già è una radio un po' più professionale rispetto alla 48, capito? Ma noi gli pigliamo un golpe, vabbè che non va a nessuno, vizzino, però è meglio del 48, è molto più selettivo, è omologata, è una radio omologata che puoi tenere benissimo a casa, esce con 5 watt, attenzione, se vuoi fatti in più si va a attaccare altra cosa, però esce con 5 watt, è omologata. Ma quale stai dando? Cos'è? La RAM 68, così? 88, non è come il 48, è diverso, c'ha le bande laterali, va tutte le FM, tutte le cose, voglio dire, le USB, tutte quelle cose lì c'ha, capito? E tutti i filtri c'ha, le fighe, micchighe, calipro, faccio entrare per un canale, tutte queste cose, che poi è perfetta pure, si prova a dare, provo a andare male, mi pare. Ieri lo stavo provando ed era casa della perfetta, che in fermata laterale in cosa e la via attaccata rimane, catena giusta, perfetta, centrata. L'ho trovato, lo sto guardando, aspetta. Guarda, 88 plus, così è G. No, sotto International, come si dice? International, sì, International. Di vecchia razza, a me, non è un baracchino da vanno in recente, sono di chi ti fatti bene, facciamo una busta. No, io ho fatto l'anno 98 S. Beh, ma non è un percorso. È tipo come si chiama? Il 48, dai. Tipo il 48. Però è come lo grande, tutto a destra. Capito? Hai già due colori, mezzo grigio e mezzo... cos'è? Così che va a Danazzi, li vedi sopra, va 1, 2, 3, 4, 5, così da fini. Poi va 1, 2, 3, 4, va 4, 5 pomelli minori e romano del canale. Isso è. Esatto, sì, questo qua è quello lì. Quello lì. Non è S, comunica S. S International, usci. Come non ha messo se è internazionale, deve essere no, 88S, anche se 88 poi vedete tanti modelli, ma più o meno è quello lì, dovrebbe essere quello lì. Qua si dice, FM, SSB, come lo faccio? Isso, proprio quello lì, gioia, quello lì, proprio quello, ne ho tre io di quelli lì, tre innaggio. Sono tre di, due sono della Mattesse Marca e uno di Inter, però è gemello preciso lo Mattesse. No, c'è un valore lucolore che è niente, è scritto Inter Catanante, però è preciso, è identico gemello. Io di Giovanni l'originale, gemello di Raffaele. È un Fayette, o presidente forse, no, Fayette, presidente voglio dire. Ed è preciso, sono tutti precisi. C'ho l'Inter che adesso poi davanti è il 2001, GP 2001 l'Inter, ed è gemello di quello lì, preciso a quello lì, solo che è l'Inter. Va bene, ma mi hanno suggerito una cosa un po' di tempo fa, forse faccio come mi hanno suggerito dove mi sono via uno che mi sa un bene e dico fa tutto tu, vai, mi prendo un bel cibo da base. Positivo. Ma io non è che mi interessa so che tu stavi cercando prestazione fissa, allora, quello è un apparato omologato e andava, capito? Non è che mi interessa di billo, non è che non me ne faccio nulla, infatti non è che lo devo vendere un veterinario, però sto dicendo, non me ne posso nulla, non è poi mi interessa, è lì, non mi sta chiedendo nulla, non è che lo sto dando perché voglio perché mi servono soldi, quindi attenzione, quindi, lo stavo dando perché sapevo che ti serviva prestazione fissa, detto quello, prestazione fissa va benissimo, però non ti preoccupare, non c'è problema, se tu vuoi prenderti una cosa più migliore fai. Che cavolo, non ti mettere problemi. Lo vediamo, mi piace anche quello, non c'è problema. Tanto uno mi serve, uno mi serve per metterlo qua, se no posso stare sempre attacca e attacca. Capito? Era un coso e poi una radio più professionale, allora un'altra cosa, però questi andano per esempio Giampaolo che anda a voi che andare a Ferrari, a NFM, ecco, con quello tu ci puoi andare, ecco, quello ti voglio dire, puoi andare e puoi seguire a loro, hai capito? In quelle bande lì, capito? No, ma già ci vogliono le bande laterali 27, capita e fa una prova. Anche perché adesso poi d'estate c'è propagazione, quindi ti sposti a centrobanda dopo il canale 20, sul 30, sul 40 e c'è sempre propagazione, capito? E soprattutto in banda laterale, per quello. Gianlu, attaccando là il tuo microfono, cazzo quanto è feo, eh. Cesso, ma cos'è questo cobra? È bellissimo, è veramente bello, però ho 40 canali. Vuol dire che è così. Però se fa una spesa, giustamente come ti ha detto Luigi, prendi una cosa fatta bene, devi andare su quello che ci siamo detti una volta noi, no? Quando ci siamo visti. Perché poi cosa succede? Qualità prezzo, quando tu vai a prendere una radio come Cristiani, hai sempre qualcosa in più, ti puoi sbizzarrire, puoi fare, puoi andare nei canali alti, nei canali bassi, ascoltare le bande laterali e tutto, capito? Se poi ti interessa solo quello dei nomi, va bene, allora 40 canali più che sufficiente, però in quel caso lì, adesso che inizia la propagazione, quindi devi superare i 40 canali e ci vuole una radio consistente, quindi devi averla. Sì, no, ma sono d'accordo con voi. Adesso già non per loro così, siamo agiti per loro questo qua al vivo, perché qua no, cioè, si vede la cima, voglio vedere al vivo. Quante già hai fatto caso, era attaccato lì, il giorno si è passato, era attaccato lì giù il garage, è attaccato lì, è lì perché è molocazzo, mi è messo lì attaccato. No, non ci ho fatto caso oggi. Positivo. Non c'è il canale sopra quello lì, il canale 45, sotto e sopra, però c'è le fate laterali, però non c'è il canale sotto, quelle lì, mi capito, ma non ce li ha, capito? Poi se uno deve comprarsi, se vuoi comprare una cosa, deve acquistare un apparato che abbia tutti i canali, che abbia sopra, sotto, che non lo so, capito? Deve andare su apparati più cose. Poi il Cobra, non lo so, quello che Cobra, se vuoi vedere, che Cobra ce n'è uno, ma costa anche un po' di soldini. Quello che ti dico io costa sopra i 400 euro, quello che sto dicendo io, intorno ai 400 euro, ma non penso che tu stai guardando quel Cobra lì. Non penso che quello esce con 140 watt già di suo quello lì. E non penso che stai andato, io l'avevo fatto portare come campione una volta quelli quando lì a Marrubio, quando da quello che sta Sandro Tigre, che poi gli ho dato il numero di telefono e si è ordinato qualcosa da quello lì e via dicendo. E io l'ho fatto arrivare da quello lì, il Cobra. Allora lei vuole uno che insomma gli abbia dato tutto, anche che possa uscire con qualche fatto. Sì, ma arrivi a quel livello lì di quella radio che costa 400 euro, perché un magno che si assomiglia un po' al Cobra anda intorno ai 3,50, 3,40, adesso non mi ricordo, una cosa del genere. E questo, quello che sto dicendo io, costava quasi un 100 euro in più. Con 400 euro, lo sai cosa avessi? Mi divido con la cosa avessi. Te l'ho già detto, e anche con 300, capito? Te l'ho già detto, Eugenio, siamo già visti, siamo conosciuti, ci abbiamo fatto una bella chiacchierata. Io le ho detto, se uno vuole rimanere così nell'ambito suo, senza trappare eccetera, va bene qualsiasi cosa, anche un vecchio 23 canali, se vuole chiacchierare, se vuole stare in compagnia eccetera, ma se poi vuoi fare i salti di qualità, è chiaro che devi andare su quello che ti ho detto oggi, e hai il massimo che puoi avere con 300 euro, però hai il massimo. Perché hai il massimo? Te l'ho già spiegato, intanto perché c'hai il watt, che non hai bisogno di amplificatore, perché c'hai sempre quei 70-80 watt modulati che ti permettono di andare bene da tutte le parti. Poi la ricezione non è uguale ad un baracchinetto normale come usiamo noi, insomma ci sono tanti fattori che ti permettono qualità-prezzo, rispetto qualità-prezzo, perché il prezzo c'è e la qualità lo stesso di fare tante cose, tutto lì. Adesso vediamo la disponibilità mia, poi già il tuo telefono. Non c'è problema, io ti ho detto, quando hai bisogno chiamami, oggi sono a tua completa disposizione. Ce ne sono parecchi in vendita, tra l'altro seguiti anche da me, perché sono le uniche radio che io seguo moltissimo, perché mi è sempre piaciuto seguirle. E quelle due o tre che ci sono, tra l'altro due sono radio che ho dato io, quindi sono garantiti al 100%, perciò non c'è problema. tu vedi già come fare qualche operazione di quelle radio, poi di altre cose non ci sono problemi, ma di quelle radio chiama sempre a me perché sa che io magari ho qualcosa da poter essere utile, quindi mi avvisa quando fa le cose senza avvisarmi, le fa perché sono cose sue piccole che non servono a niente eccetera. Giampaolo quando deve cambiare quello radio mi avvisa sempre prima di fare le manovre perché sa che io la conosco, capito? Se le telefono alla buona radio sì, lui mi chiama subito, guarda ripetita, mi ha proposto questa radio, la conosci? Sì, prendila perché è nuova, tranquillo, uscisce con tenendo a te, te l'ho già detto. Ce ne sono un paio molto interessanti qua a Sassari, che tra l'altro sono radio di persone che le tengono anche molto molto bene. E c'hai una buona cosa, capito? Tutto lì. Ma Gianluca che chiudo la cadena, Gianluca. Lo stiamo trovando questo microfono, stai mi ascoltate? Devo passare un po' ancora. Devo passare un po' da te, adesso, ok. Vedi un po' che adesso così, Claudio, non fa il male questo qua. Questo va bene. Questo è il 1300, mio. Posso mettere anche leggermente dietro. E nel Gigi te lo sto provando, capito Claudio? Va bene, io ti ascolto bene. Gigi. Positivo, no, già ascolto bene pure io. La prima cosa quando è iniziato c'avevi un piccolo innesco e cosa, ma è sparito subito, no? Adesso va bene, Gianlu. Sì, sto provando, questo microfono è giusto per usarlo, quando mi letto non è che mi interessa più di tanto. Solo che Claudio, questi microfoni così amplificati così senza processore, capito? Il se lo usi col processore ti c'ha il picco. Perché già hanno un piccolo modulazione molto alto e quindi prende la modulazione a trattare, a fare, bisogna che lo tieni un po' a regime. Già andava. Beh, signori belli, le 11 sono. Io mi congedo perché domani mi vado a fare alle 6 che c'è un collaudo da Nulvi, devo essere presto lì alle 7:30. Vi ringrazio a tutti della chiacchierata, a me piace fare queste prove tecniche di trasmissione, eccetera, eccetera. Oggi sentiti un pochino con Gigi, documentati un pochino con Gigi, che lui già ti dà indicazioni buone, e poi se devi fare il salto di qualità lo sai che sono disponibile, non ci sono problemi. Ciao Gigi! Buon trabacco a tutti per domani, a te Eugenio, a Gianluca, già nel doppio room se mi sta ascoltando, a Luca qua del Monte e a tutti quelli che sono in ascolto, siamo doppio le compresi. Buonanotte a tutti, ascolto i finali e poi chiudo. Gigi a te il compito di far girare la ruota e ci sentiamo domani. Ciao, dai, buonanotte, dai, io me ne vado a letto che devo lavorare. Va benissimo, vai oggi. Segna, per attimo qua, io vi saluto a tutti. Ciao a tutti e buonanotte, anch'io me ne vado via. Ciao. Segna, ciao Claudio, ciao Gino, dai. Posso ti rimane ancora qua? Buonanotte a tutti. Ciao Gianni. Un attimo che mi devo lasciare qua mia mano, dai, un secondino, così vedo un po' che è rimasto in rotta. Dai, buonanotte allora, ti stanno via. Buon riposo, buon tutto comune, dici? Inizio di fine di settimana, e buon lavoro, da tanti anni. Ciao Claudio, ciao anche a Coso. Mi saluto tutti e due, cordialmente vi auguro una buona notte. Ciao, Pedro, ciao. Ciao. Dai, ciao Eugenio, ciao Gianni, anche da parte mia, che anche io vado a riposare. Ciao Luigi, buonanotte. Buonanotte, anch'io mi sono all'ustante. Ciao a tutti, ciao buonanotte. Ciao Eugenio, buonanotte. Yeah, ciao Eugenio. Ripetiti. Ho salutato pure io, ho salutato pure a te, che mi sono per riposarmi, e purtroppo anch'io mi devo lavorare domani, capito? Già, le ho salutato, forse non sei stato attento. Però come ti ho dormito è diverso. Ciao Luigi, allora buona serata e buonanotte. Yeah, ciao, mi dispiace lasciarti solo, però anche devo andare a riposare. No, sono con un coso. Quindi a Luca. Quindi a Luca c'è stata la zona, Gianni? Lo so con dire? Sì. Gianni? E io? Non è quella di soffrire, ma chi sono io lì? E io mi dici se è grato? Tu sei di dire che sta facendo, E di male che ha tempo fatto, Gianni? Boh, non ho guardato Gianluca, non ho guardato di previsione. Dice che comunque da quello che sono i giorni scorsi hanno detto che da domani notte dovrebbe cominciare il freddo proprio più potente. Sì, questa settimana, da questa settimana, su quella settimana dice che siamo a temperature più basse. Se il mondo viene passato fa l'otto di base. È vero, ma magari dai. Allora, nel comitato di Nuova Genova, a Raimondi, cosa abbiamo detto? Ordisti, sudisti. Poi, per carità, mi sono dormito poco fa e dove se mi avete cercato così? Non è che ha fatto Nuova Genova, ha fatto, ma io non sono riuscito a cucare la bandita, mi sono comunque finito, sono arrivato che mi ha arrivato la luce e sono rimasto finito, sono rimasto a ragionare da qui, ho venuto a 24 ore e mezzo di pomeriggio, e poi sono venuto a mangiare un giro per dire cosa era sul carro che era affidato ai butto d'ora, ma era con me qua di San Fretta. Che è lui? La verità è che non ha giunto su che formava via, ha giunto un trattore che rende sul barrello e aveva un po' di macchina nato. La musica andende, candendo i cigarci. E poi sicuramente i ripetini, giustamente visto la giornata, sarà iniziata anche presto verso le 4, sta per mezzo, così nel giornale c'era scritto la strada di Ligurian, l'Oriera, la sbattatura era ancora un po' bugliente, ma sicuramente la maggior parte se ne era già andata. Niente, un giro di lungomare, poi giocando un po' di giocare, così, una cucchiaia, mi sono per entrare, dopo tutto niente, oggi proprio mi sono dedicato, perché domani sarà la stessa cosa, domani sono qui, ma non mi dedicherò un basame. Bambu, dai, Gianluca, che avevi fatto allora, mi sto addormentando, se no poi va a finire che mi chiami e non rispondo. Ci salutiamo qua, buon lavoro per domani e tante cose belle, eh? Sì, altrettanto, ciao figlia, ci sentiamo domani, eh? Ma guardalo tu, ancora fai, sì. Ah, l'otto e mezzo. Ma guarda che non la tieni tu. No, non lo accendo perché solitamente non c'è mai nessuno a quell'ora. Ma io l'ho preso così, che io sono sempre acceso. Io non cosa attesa che hai fatto il cambio di sera mazzano. Ma è lì a casa lo tenia attesa. Ma io no, perché io sono capito del lavoro. Io non. Allora domani sono qui in paro battiti. Però con anche di lì io mi riesco a dare zinco. E il 4 e mezzo, siete ma questo altro che dove è. E intendo la realtà attesa, senza attesa che arriva lo zinco sono il cambio di sera. Ma poi la lascio in sezione, la butto su 5. Allora domani la attendo, va. Via? Ok, dai. Forse te la tengo qui di tanto, dai, che domani mattina sarà bisaggio. Ciao, già, buonanotte, buon tutto, buon inizio di settimana anche a te. Allora, ci sentiamo, ciao, ciao, ma... Buonanotte, Gianluca, ci sentiamo.